si può fare. L'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. 202-203 con parere contrario. Tutti hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Colleghi, io sospenderei la seduta. Guarda che non la sospendo più, cioè io devo valutare l'impatto e i possibili effetti. La sospendo fino alle ore 17:10. Viva la Rai, mi fa crescere le mani. Viva la Rai, viva la Rai, quanti geni lavorano solo per noi. Viva la Rai, con il suo impero dice la Rai, soltanto impero, viva la Rai. Dimmi da quale parte stai. Buonasera ad Alessio Maurizi, cari ascoltatori, 800 24 00 24, ben ritrovati con Si può fare, 18, 20 e 30, tutta la serata insieme con i vostri interventi, tra pochissimo, insomma alla fine passa tutto ma non passa il governo sulla RAI, è quello che è successo oggi, il governo è andato sotto, può darsi che più che la questione di merito sulla delega, insomma il governo per il canone, pur non è una cosa da poco perché si parla proprio del cuore, no? La tassa che si paga per l'imposta che si paga per la RAI, può darsi che non sia questo il cuore della vicenda, che siano messaggi politici trasversali, può darsi, perché bisogna andare a leggere i numeri per capire che gli emendamenti proposti dalla minoranza Dem, ma anche dai 5 Stelle e da Forza Italia, sono stati votati con i voti appunto della minoranza Dem, e questo lo sappiamo, che ci sono dei senatori che scalpitano, no? All'interno del Partito Democratico, ma nemmeno la nuova formazione verdiniana ALA, la nuova formazione lanciata proprio ieri da Denis Verdini, che promette un'opposizione responsabile ma fondamentalmente si annunciava come un sostegno esterno al PD e al governo, ebbene hanno votato in due e tutti gli altri 10, sono 10 in totale, erano assenti, e quindi questo è un messaggio forse trasversale, chi lo sa, al governo, così come non hanno partecipato al voto in 12 del Partito Democratico. Alla fine dei conti, a metà pomeriggio, Renato Brunetta twitta: governo battuto a Palazzo Madama sulla riforma della RAI, verdiniani o non verdiniani, la maggioranza non c'è più. Good morning Vietnam. Sentiamo anche Gasparri, il relatore della vecchia legge, la legge che c'è adesso in carica, porta il suo nome con questa legge, perché il governo non è riuscito ad approvare una riforma, si andranno a rinnovare martedì prossimo i vertici della RAI. Matteo Renzi ha cambiato verso, non gli piaceva la legge Gasparri, ma adesso la applicano. Si vede che è una buona norma che garantisce democrazia e pluralismo per il servizio pubblico della RAI. Una bella soddisfazione per me. Ancora lo scossone, anche questo tutto un po' interno alla maggioranza e soprattutto al Partito Democratico, sul voto che ha salvato il senatore Azzollini, senatore del nuovo centrodestra, accusato di bancarotta fraudolenta, associazione a delinquere, c'era un mandato d'arresto su di lui, lo sapete, il PD ha votato in libertà e libero è pure lui, Azzollini, sentiamolo. Sono un soddisfatto per il voto e l'ampiezza del voto, credo che sia stata una conseguenza, diciamo, della esposizione dei fatti. I senatori hanno potuto votare sulla base delle carte e degli argomenti che sono stati loro esposti. PD in ordine sparso, perché sentiamo Cuperlo, intanto Cuperlo della minoranza, ieri il vice segretario Serracchiani, insomma, l'ha detto: dobbiamo chiedere scusa ai nostri elettori, già, sì, detto dal vice segretario, cioè dal numero due del partito, fa anche un po' sorridere, ma sentiamo Cuperlo. Oggi ci siamo fatti del male e lo dico nell'interesse del PD. Che cosa è cambiato dal voto nella giunta per le autorizzazioni al Senato al voto dell'Aula? C'è la sensazione che siano intervenuti dei fatti diversi dal merito e questo dovrebbe allarmare tutti. Forse serve un chiarimento, serve nel gruppo del Senato, serve nel gruppo dirigente del nostro partito, anche alla luce delle dichiarazioni della vice segretaria Serracchiani che sono arrivate dopo il voto del Senato, e forse sarebbe stato sensato arrivassero prima. Ma se la sinistra del Partito Democratico non rivendica un voto a favore di Azzolini, anzi dicono di avere votato contro, e allora sono i renziani ad avere salvato Azzolini. Sì, ma ad aggiungere confusione alla confusione ci pensa Fanucci, che è un renziano e che dice sì, va bene, abbiamo votato così, però l'immunità a questo punto non ha più senso, andrebbe tolta. Boh, sentiamo. Secondo me questo istituto non ha più senso di esistere, quindi non è che la mando a dire l'immunità parlamentare oggi è diversa rispetto al passato, ma è comunque una forma di immunità rispetto al cittadino, e se le leggi devono essere uguali per tutti, se il Parlamento deve dare l'esempio diversamente e di più rispetto agli altri, secondo me anche questo istituto deve essere riformato. Chi non è confuso per niente invece sono i senatori del Movimento 5 Stelle, che hanno gridato ancora una volta naturalmente al complotto. Gianrusso. Voi nel segreto, nascondendovi come i ladri agli occhi dei cittadini, salverete Azzolini. Ma voi salverete Azzolini e perderete voi stessi, perché dimostrerete una cosa inconfutabile, che di Azzolini eravate complici e sodali. Intanto a Fiumicino, insomma, questa veramente non è l'estate di Roma, è una persecuzione nei confronti di questa città. Non bastassero i rifiuti, le foto dei rifiuti, non bastassero le metropolitane ferme che vanno con le porte aperte, non bastasse l'aereo fermo a Fiumicino qualche giorno fa, non bastasse il rogo sulla pineta, oggi ci si è messo anche un blackout. Questa è la sirena del blackout che è suonata oggi a Fiumicino stamattina. Veramente sembra, non lo so, che vada tutto di traverso a Roma. Sentiamo le... chi è questa? Una turista spagnola? Sentiamo, perché uno dei voli che più ne ha risentito era un volo per Barcellona. Disperata. Insomma, le immagini le avete viste, sono circolate, sono da tutte le parti. Pensate che effetto una cosa del genere sull'immagine di Roma, dell'aeroporto di Roma, una roba del genere, no, che sta girando naturalmente su tutti i siti del mondo. Altri turisti indignati, sentiamoli. Praga. L'alternativa è un volo sabato, quando il rientro è previsto per domenica. Quindi noi andiamo sabato pomeriggio per tornare domenica mattina, una pizza e via. Vai, sono cose che succedono spesso durante l'estate, blackout o ritardi, c'è sempre qualche sciopero, però questa volta ci siamo messe tutte in fila, le cose che sono successe a Roma sono veramente clamorose. 800 24 00 24, ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un attimo. Si può fare l'attualità anche d'estate. Viva la Rai, fa crescere le strani, viva la Rai. Insomma, la notizia di oggi è questa: il governo è andato sotto al Senato sul voto per quanto riguarda la RAI. Adesso noi guardiamo un po' più avanti, in prospettiva, con il nostro prossimo ospite, candidato acclamato suo malgrado a sindaco di Roma per il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni, che insomma non si sa quando ci saranno, ma alcuni pronosticano che siano prestissimo, forse appena dopo il Giubileo, in primavera, chissà. Romano, membro del direttorio pentastellato, Alessandro Di Battista. Buonasera. Buonasera a voi e buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora, cioè, la notizia dell'ultima ora per quanto riguarda la giornata politica è questa della RAI. Lei però è un deputato, non è un senatore, non so se le è giunta all'orecchio quello che è accaduto, penso di sì. Sì, è importante questo voto, è importante perché? Dal punto di vista politico ci fa capire che neanche la stampella di Verdini, sapete che Verdini è un ex ormai di Forza Italia, tra l'altro un senatore che ha tantissimi guai con la giustizia, sotto processo per corruzione, per bancarotta fraudolenta. Lui ultimamente ha fatto un gruppo per sostenere Renzi, quindi è uscito fintamente, perché secondo me ce l'ha mandato Berlusconi da Forza Italia per andare a sostenere Renzi. Evidentemente neanche lui basta al Senato, dove Renzi non ha più i numeri, non avrebbe i numeri. Ma sono messaggi, spesso questi voti sono messaggi politici, no? Proprio per lei dice molto molto bene, Guardi, io infatti prima sentivo che parlavate di Assolini, mettete e unite i punti. Qualche giorno fa è mancata, se non sbaglio, sul decreto sugli enti locali il numero legale quattro volte, perché sono mancati appunto i voti del nuovo centrodestra. Quel PD, si può fare una battuta di legale, non ha più neanche i numeri in Senato. Ecco, consideri che noi reputiamo che questi siano stati appunto una sorta di pizzini mandati dal nuovo centrodestra, che comunque è determinante in Senato, appunto a Renzi, al governo Renzi, proprio un paio di giorni prima della votazione, poi con voto segreto su Assolini. Cioè, ti tolgo il numero legale in un paio di voti magari di minore importanza, ti faccio capire che se non mi voti Azzolini, non mi salvi Azzolini. Io ti posso bloccare tutta una serie di riforme, che poi per la posizione del Movimento 5 Stelle, che sono delle riforme deleterie che stanno sostanzialmente svendendo il paese. Ma questa è la nostra posizione. Il nuovo centrodestra, che tra l'altro è il partito più indagato, pensate, della storia della Repubblica, ho fatto i calcoli, oltre il 30% dei suoi componenti in Parlamento hanno dei guai con la giustizia, in pratica è determinante per quanto riguarda il governo Renzi. Cioè Renzi, che l'unica cosa che ha rottamato è la legalità e la democrazia, è in pratica è tenuto sotto scacco dal partito di Alfano, che ha varie persone appunto per le quali è richiesto dall'arresto. Ieri per Assolini invece è stato negato appunto dal Partito Democratico. Poi suonano piuttosto pelose alcune giustificazioni, no, della Serracchiano. Sentivo prima Cuperlo, sempre ascoltavo la nostra radio, dire ci siamo fatti del male, ma il male non lo stanno facendo al Partito Democratico, lo stanno facendo al paese. Se mai un paese dove se un povero Cristo ruba un pacco di pasta al supermercato va in carcere, e il presidente della commissione Senato, l'ex, perché si è dimesso, Azzolini, sul quale pende una richiesta d'arresto, oltretutto è mischiato nel crack del porto di Molfetta, lui era anche sindaco di Molfetta, dove sono spariti dei soldi nostri, lui è indagato per associazione a delinquere, non va in carcere perché lo salva il partito di maggioranza, il PD, perché è costretto a farlo da Alfano. Ma che messaggio può dare questo partito al paese? Come può parlare di legalità se salva appunto delle persone che la magistratura reputa comunque mischiati in affari loro? Ad aggiungere confusione alla confusione, ho detto, c'è questa dichiarazione di Fanucci, un renziano del PD, che dice vabbè, l'immunità potremmo anche toglierla. Certo, dirlo adesso, dopo che si è appena votato per Azzolini. Tra l'altro questa cosa del fumus persecutionis fa ridere, perché cioè io mi domando, ma se c'è fumus persecutionis nei confronti di Azzolini, allora dovrebbe partire una denuncia nei confronti del giudice che sta perseguitando ingiustamente questo Azzolini, o no? Sì, lei dice bene. Allora, il Parlamento in pratica è obbligato esclusivamente a valutare se c'è un atto di persecuzione da parte dei magistrati nei confronti di un parlamentare. Cioè, avendo votato così, si deve concludere che c'è questa persecuzione. Allora... Esatto, ma in realtà nessuno, ci fate caso che nell'ultimo 24 ore nessuno ha parlato di persecuzione, hanno parlato di carte che non erano chiare, di giustificazione della sinistra. Questo il Parlamento non lo deve valutare, e parla chiaro, cioè il nostro regolamento parla chiaro, noi dobbiamo soltanto valutare, perché i magistrati devono essere autonomi, dobbiamo soltanto valutare se per ipotesi i magistrati stiano perseguitando Assolini. Ma allora gli altri che sono finiti in carcere nella stessa inchiesta rispetto appunto a questo buco incredibile, io lo ricordo che Assolini doveva essere arrestato, Assolini, ex presidente della commissione bilancio del Senato del nuovo centrodestra, per un buco incredibile di una clinica che si chiama Divina Provvidenza, che ha sedi anche a Bisceglie. Lì sono spariti 350 milioni di euro che dovrebbero tornare a noi cittadini, perché la clinica doveva pagare delle tasse allo Stato. Ecco, per questa inchiesta sono finite in carcere, se non sbaglio, 12 persone, la procura ha chiesto la custodia cautelare, quindi il carcere, che poi è stata da altri magistrati avallata, quindi una serie di organi della magistratura ha avallato gli arresti per queste 12 persone. Invece per Azzolini si tratta ipoteticamente di persecuzione, ma non lo è, solo, ripeto, ma di protezione. Perché sarebbero perseguitati allora anche gli altri che sono stati arrestati, esatto, per questa vicenda. Le do questa mia esperienza, io sono due anni che faccio il parlamentare, io noto che questa è una repubblica fondata sul ricatto, in cui in Parlamento tante persone conoscono degli altarini di altri parlamentari, perché si sono spartiti anche tramite le leggi finanziarie negli ultimi anni quattrini dei cittadini, per cui io ho questa, non ho le prove, però chiaramente mi assumo le responsabilità di quel che dico. Io sono convinto che Assolini abbia fatto capire, dato che ha detenuto il potere nella commissione bilancio gli ultimi 12 anni, che se fosse caduto lui si sarebbe portato con sé tanti altri, e dato che questa repubblica è fondata sul ricatto incrociato, dei politici hanno paura a votare a favore dell'arresto di un altro politico perché costui potrebbe parlare immischiandoli, comunque portandoli con sé magari in un determinato scandalo. Purtroppo è questo l'emblema della Repubblica. Cioè, 12 anni sempre... presidente della Commissione Bilancio, Azzolini. Esatto. Quante legislature sono passate? Dovrebbero essere 4 in totale, di mezzo ci dovrebbero essere stati due anni del governo Prodi. Un tecnico della materia, un tecnico deve essere Azzolini. Beh, no? Sì, tra l'altro non sa parlare benissimo l'italiano, comunque è presidente della Commissione Bilancio. Cioè, se tu vai in giro per il mondo, in qualunque. Ora io non ce l'ho con Azzolini, figuriamoci, però se tu vai in giro per il mondo a dire a chiunque abitante del pianeta Terra che il presidente della Commissione parlamentare bilancio in Italia per 12 anni di fila è uno che adesso è accusato di bancarotta fraudolenta, cosa fanno? Ridono. Sì, varie accuse, tra cui ripeto ci sono due procedimenti, uno di bancarotta, diciamo bancarotta per la clinica, e l'altro di associazione a delinquere per quanto riguarda il porto di Molfetta. Lui, tramite poi il suo potere come presidente della commissione bilancio, ha fatto arrivare a se stesso, perché lui era anche sindaco di Molfetta, una serie di denari pubblici per ampliare questo porto. Questi denari sono spariti, quindi lui è anche accusato di associazione a delinquere. Sarebbe come però se servivano ai magistrati mesi fa le intercettazioni, sì. E anche in quel caso il Senato qualche mese fa votò contro l'utilizzo delle intercettazioni rispetto ad Azzolini. Quindi evidentemente Azzolini è potentissimo. Quest'uomo che nessuno conosceva, poi io parlo dell'opinione pubblica, a Molfetta lo conoscono bene, in Puglia lo conoscono bene, fino a quando non è arrivata la richiesta, evidentemente scopriamo che è talmente potente da essersi salvato due volte in Senato da alcune votazioni. No, sarebbe come se, sarebbe come se il Presidente della Commissione Sanità fosse un chirurgo che è accusato di aver operato una gamba sbagliata più di una volta a un paziente, no? Accusato. Oppure poi... come se un tizio che ha avuto a che fare con Cosa Nostra ha avuto come intermediario uno come Dell'Utri riformasse la Costituzione. Però anche questa cosa in Italia succede, si chiama Berlusconi, si chiama Forza Italia, ma sono delle questioni che succedono soltanto in Italia. Senta, parliamo anche di Roma. Lei ha detto più volte che non vuol fare il sindaco, ma io non ho capito perché. Perché è per l'incompatibilità, ma non si potrebbe dimettere e candidarsi per il Movimento 5 Stelle? Chi se non un romano di punta del Movimento 5 Stelle? Ma io lo potrei fare, nel senso, da un certo punto di vista non lo posso fare perché sarebbe un andare contro un nostro regolamento, ma io a questo regolamento ci credo, lei deve capire, e vi prego anche agli ascoltatori di rispettare questa scelta. Sì. Noi abbiamo scelto di candidarci con il Movimento 5 Stelle proprio perché aveva delle regole. Una di queste era che se tu vieni eletto per fare una determinata funzione, nello specifico sono un parlamentare della Repubblica, quindi un portavoce del popolo italiano, anche di coloro che non hanno votato 5 Stelle, io devo finire questo mandato, altrimenti diverrei come la Moretti, che prima viene eletta in Parlamento, poi dice cambierò l'Europa e viene eletta in Europa, dopo 10 mesi dice cambierò il Veneto e mi candido per il Veneto. Significa utilizzare la politica non come modo per risolvere i problemi dei cittadini, ma come autobus e scegliere la fermata migliore, quella più o redditizia oppure di maggiore prestigio. Questo è qualcosa che noi ce l'abbiamo nel DNA. Contestualmente le dico che io voglio finire il mio mandato in Parlamento perché mi sto occupando di tematiche che ritengo importanti, nonostante io possa anche dare un contributo dal Parlamento a Roma, cosa che facciamo tutti noi parlamentari romani, nella scrittura del programma. Io vorrei che i romani votassero un programma. Quando si potrebbe votare, secondo questo te? Questo non ne ho idea. Io credo che Renzi stia in sostanza prendendo del tempo anche con quest'ultima mossa di qualche ora fa con questi due assessori parlamentari. Tra l'altro ci rendiamo conto che la capitale d'Italia, in una condizione di degrado mai vista, avrebbe bisogno di politici a servizio pieno, assessori come ai trasporti o al bilancio dovrebbero stare giorno e notte a lavorare su Roma, invece sono part time perché in realtà fanno senatori e deputati, e quando hanno degli scampoli di tempo fanno anche gli assessori. Ma vi rendete conto di quanto è buffonata si tratta? Noi crediamo che Renzi stia prendendo del tempo per tirare fuori un nome, perché non si può ripresentare con Marino altrimenti prende il 4%, e non c'è oggi oggettivamente nessun volto del Partito Democratico spendibile per Roma. E un'altra cosa che noi crediamo è che abbia bisogno di tempo, perché se si andasse al voto tra una settimana il Movimento 5 Stelle avrebbe delle ottime possibilità di arrivare al ballottaggio, e tendenzialmente quando noi arriviamo al ballottaggio poi veniamo premiati dai cittadini, poi questo è tutto da vedere. Vorrei il Movimento 5 Stelle presenta dei programmi, stasera presenteremo delle idee, delle nostre soluzioni per Roma, anche a Piazza Sempione dalle 19 in poi, proprio questa sera a Roma. ascoltate le nostre proposte e poi valutateci, metteteci alla prova. Vabbè, adesso elezioni non ce ne sono, quindi è un po' presto. Però, quando sarà il momento? Il programma per Roma va costruito anticipo, perché non è la... Io veramente, però, guardi, lo dico senza polemica. Le voglio chiedere una cosa. Ecco, sì, il degrado. Però è davvero tutta colpa dell'ATAC, dei dirigenti, di Marino, di questa giunta, se c'è ovviamente un po' di degrado, tanto degrado, a seconda anche un po' dei punti di vista di dove si concentra l'attenzione a Roma? Perché le faccio due esempi. Uno è questo: due operatori di car sharing hanno annunciato che vogliono abbandonare Roma, almeno uno, l'altro che forse lo abbandonerà perché hanno avuto troppe auto vandalizzate, e lì non credo che c'entri nulla la giunta, i politici, è proprio l'atteggiamento della gente, dei romani. E l'altra è la notizia che in questi anni la raccolta differenziata dei rifiuti è cresciuta dal 25% al 43% nella capitale, quindi qualcosa nella direzione giusta è stato fatto. Quindi, allora, in primis, certamente in tutte le responsabilità non ce l'ha un sindaco che comunque sta amministrando da un po' più di 2 anni. Io ricordo sempre che, infatti, che Mafia Capitale ci insegna che evidentemente i criminali si sono infiltrati in varie amministrazioni, come hanno arrestato vari assessori o consiglieri comunali di questa giunta, quindi anche nominati da Marino. In Mafia Capitale è mischiato, comunque indagato per mafia, l'ex sindaco Alemanno. Quindi evidentemente i problemi vengono da lontani, i problemi di bilancio vengono dall'amministrazione Veltroni, e tra l'altro Causi, con delega al bilancio, lavorava in quelle famose giunte di Veltroni. Certamente anche i cittadini, poi i vandali, sicuri, se ci sono dei vandali, questo è devastante. C'è da dire anche che come dire, l'esempio che viene dall'alto, appunto, per riprendere la questione di Azzollini, è che l'illegalità paghi in Italia. Questo è un esempio drammatico. Con questo non sto minimamente giustificando, i vandali dovrebbero essere presi, dovrebbero lavorare fino a che non pagano tutti i danni dei loro atti vandalici. E sentivo il secondo esempio che mi faceva, qual è? Ancora sulla raccolta differenziata. Sì. È aumentato, però dobbiamo anche valutare dove va a finire questa mondezza, perché magari il cittadino prende e fa anche uno sforzo, perché non è abituato e non è neanche semplicissimo, con certe risorse che abbiamo, prendere e dividere la mondezza. Sì. Io per esempio lo faccio, come lo fanno tanti. E dove romani. Va? Perché? Dove Ma questa va? Mondezza dove va? Dato che spesso andava prima, perché la chiudessero, che era la più grande discarica d'Europa, a Malagrotta, e oggi l'amministrazione romana paga per mandare questa mondezza in altre discariche al di fuori del territorio romano. Cioè, dobbiamo capire anche questo. Un'idea del Movimento 5 Stelle, che sembra una roba logica, ma noi tra l'altro la stiamo applicando nei comuni dove amministriamo, perché io ricordo ai cittadini che il 5 Stelle in Parlamento è all'opposizione, ma amministra alcuni comuni. È: tu meno mondezza produci e meno paghi la mondezza. Questo è importante. Le tariffe intelligenti. Come? Le cosiddette tariffe intelligenti. Beh sì, perché vede, ormai si può anche andare in un supermercato, ci sono alcuni supermercati dove puoi prendere il latte con la tua bottiglia di vetro, dove puoi prendere alcuni prodotti sfusi, dove tu puoi razionalizzare o migliorare, cioè, un certo tipo di acquisti per produrre meno mondezza. Io produco meno mondezza, pago di meno. Vedrà che così il cittadino sarà maggiormente invogliato a fare anche come dire, delle scelte etiche che poi vanno a vantaggio delle proprie tasche, ma anche della salute, perché ricordo sempre che il percolato, le discariche, anche gli inceneritori in Italia producono il cancro, producono malattie, quindi anche l'innalzamento drammaticamente delle spese sanitarie. Senta, le posso chiedere se ha notizie su Christian Rosso? Gli avete offerto assistenza legale, o ho capito male? Un aiuto? Di questo se ne sta occupando Marcello Di Vito, che è il nostro consigliere comunale, appunto, del 5 Stelle. Io proprio in queste ore, ma mi sono arrivate altre carte, sto scrivendo un'interrogazione parlamentare al Ministro del Lavoro, perché ci sembra piuttosto sospetta, no? Come lui viene sospeso a tempo indeterminato, in effetti, proprio tra l'altro, il giorno dopo che ha denunciato alcune tra l'altro sembra altre. Lui ha detto che non ha mai fatto un ritardo a lavoro, non ha mai fatto malattie strane, cose del genere, per cui sembrerebbe un lavoratore modello. Risulta? Come dire, è un brutto messaggio, un messaggio come che vuole farci capire che l'omertà paga in Italia, purtroppo in tanti territori, non soltanto a sud. Poi, se ci fa caso, è successo lo stesso giorno in cui da un lato Azzollini viene salvato, io ritengo anche perché è stato zitto e non ha fatto dei nomi di persone che chissà quel che ha fatto, che hanno fatto negli ultimi anni, e lui sa, e è stato premiato. Contestualmente, un autista di ATAC, per aver fatto delle denunce anche giuste, perché aveva una città contro, cioè c'è una guerra tra poveri oggi a Roma, ci sono i cittadini romani che giustamente devono avere un servizio dignitoso che non ce l'hanno, e dei macchinisti e degli autisti che lavorano in condizioni allucinanti, e questo vuole il sistema, vuole la guerra tra poveri, di modo che poi può dire il pubblico non funziona, occorre privatizzare. Questa è un po' la strategia. E voi siete contrari. Dicevo che mentre salvano Azzollini invece sospendono a tempo indeterminato un autista proprio perché invece ha avuto il coraggio di parlare. Io noi in 5 Stelle sarò sempre al fianco di cittadini, ma potrebbe, che avranno il coraggio di parlare. Potrebbe anche diventare un vostro candidato da qualche parte. Se lui ha, chiunque si può candidare al Movimento 5 Stelle, deve fare un percorso, deve essere incensurato, non deve essere iscritto a partiti politici, deve far parte appunto del movimento, però lui come chiunque altro che avesse i requisiti si può candidare, ma non è che siccome lui oggi è una persona conosciuta noi lo candideremo. Però lo state aiutando per fare una specie di ricorso contro questa sospensione? Sì, noi lo aiuteremo, io faccio il parlamentare, per cui io ho degli strumenti parlamentari come le interrogazioni da portare avanti, e questo è il mio dovere e questo posso farlo. Se poi lui avrà anche bisogno appunto di una tutela legale, questo come Movimento 5 Stelle proveremo a sostenerlo, a tirare fuori come dire un'idea per dargli anche questo tipo di sostegno, però il mio dovere è quello di depositare degli atti parlamentari per fare maggiore chiarezza e per chiedere per esempio al Ministro del Lavoro se per lui non c'è stata qualche violazione appunto dei diritti del lavoratore in questo caso. Grazie, buona serata Alessandro Di Battista. Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Buona serata, grazie, ciao. 800 24 00 24. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Eccoci qua di nuovo, buonasera da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, 800 24 00 24. Tra un attimo torniamo da voi, adesso titoli di Sky TG24. Partito da un cumulo di rifiuti il rogo nella pineta Fiumicino, oggi ancora disagi e anche un blackout. Passeggeri esasperati, al Terminal 3 intervengono i carabinieri. In un video una hostess spintona un turista che protesta. Marino resiste alle pressioni, rincara la dose contro il PD, nuova protesta dei dipendenti ATAC al Campidoglio. Mattarella lancia un appello per le riforme e punta il dito contro la corruzione. La priorità è sconfiggerla, dice. Governo battuto al Senato sulla riforma della RAI, maggioranza sotto sulla delega per il canone. Ai domiciliari il direttore generale dell'ospedale Sant'Andrea di Roma ha contestato la gestione degli appalti delle camere mortuarie. Anche i talebani confermano la morte del mullah Omar, ma nessuna certezza sulle cause. Il suo successore è Akhtar Mansour. Paolo Nespoli a 60 anni per la terza volta tra le stelle, sarà lui il prossimo italiano sulla Stazione Spaziale Internazionale. E allora andiamo con chi andiamo? Mario che ci chiama da Roma. Buonasera Mario. Sì, buonasera, buonasera. Eccoci qua. Io volevo fare una considerazione di fondo sull'attacco che viene fatto a Marino in questi ultimi giorni. Sì. Cioè, avrei da dire una cosa, diciamo, emblematica. Mm-hmm. Marino si avvale di... della facoltà di... No, di una quindicina di municipi, adesso non so quanti siano, comunque sono oltre 10, e ogni municipio ha un responsabile di zona con i vari assessori, i vari incaricati. Beh, c'è una discarica sull'Acea, sull'acquedotto dell'acqua potabile, in via di Ponte Mammolo, a Roma, a chilometro 9 della Tiburtina, dove da decenni non si riesce a far rimuovere questa discarica. Abbiamo fatto, noi comitato di quartiere, abbiamo fatto lettere, proteste, denunce, recentemente c'è una... Ma è una discarica illegale, mi scusi, o cosa? Ma una discarica fatta da nomadi che stanno lì in zona, decine di centinaia di famiglie. Cioè non è una discarica autorizzata? Ma autorizzata, ma scherza, assolutamente no. E non siete mai riusciti a far togliere il degrado? Non la tolgono. Allora abbiamo fatto, adesso abbiamo avuto di recente un incontro con l'AMA e con il quarto municipio che è il responsabile di quel territorio, dove l'AMA si era impegnata ad attivare la raccolta differenziata, pensi che stupidaggine, in un campo dove ci sono 3 ettari di persone sparse dappertutto, non raggiungibili neanche con le strade. Scusi, ma non ho capito, ma è un campo, non ho capito, ma è un campo rom o è una discarica? No, è un campo aperto. Ma da quanti anni c'è questa discarica a cielo aperto? Ma da decenni. Poi è stata rimossa nel 2007 e subito dopo questi rom l'hanno rifatta perché si fanno pagare per buttare. Ovviamente no. Vabbè. Perché siccome nessun sito accoglierebbe Mario, capisco che non sia piacevole, è vicino a casa sua, quindi no, sarà arrabbiatissimo. Però che dobbiamo fare? Tra l'altro ce sarà, se facessimo un censimento, migliaia in Italia di robe così. No, migliaia forse no, speriamo di no. Davide da Reggio Emilia, buonasera. Sì, buonasera, io volevo intervenire riguardo Fiumicino. Sì. Secondo me è soltanto la punta di un iceberg della situazione aeroporti che abbiamo in Italia. E sono di fatto lo specchio di un paese appena uno arriva dall'estero, però la situazione è drammatica anche a Linate e Malpensa. Purtroppo perché? Devo viaggiare da questi due aeroporti e è disarmante. Vabbè, ma che è successo situazione... a Linate oggi? Che è successo a Linate o a Malpensa? È andato in palla il sistema di distribuzione dei bagagli una volta arrivati. Oggi? Oggi sì, stesso? Questa mattina sono appunto ho avuto un serio problema, non è la prima volta che si tarda tranquillamente dai 45 ai 60 minuti prima di ricevere i bagagli e tutti sappiamo che Linate è un aeroporto fondamentalmente piccolo. Sì. Mi sono posto la domanda, ho chiesto le spiegazioni e sostanzialmente mi hanno parlato questa mattina di un improvviso calo di personale che a mio avviso è una di quelle scuse che però fanno capire che dietro o ci sono come al solito delle riunioni sindacali improvvisate, vedasi quelle giù a Pompei o che cosa, o comunque una situazione che fa denotare come la gestione delle operazioni è proprio lasciata allo sbando. Cioè lei oggi ha aspettato 40 minuti prima di ritirare il bagaglio? Io dove? A Linate? 50 minuti a Linate prima di ricevere il bagaglio e la risposta che mi è stata data è un improvviso calo di personale. Pesantuccio. Grazie Davide, buona serata anche a lei. Pesantuccio, 50 minuti d'attesa, forse meno grave del blackout di due ore a Fiumicino, ma insomma è sempre un'ora di tempo buttata via. Mariella da Gorizia. Buonasera. Buonasera Maurizio, io telefono esattamente da Grado, che è una cittadina in provincia di Gorizia, sì. Un posto turistico. Io vorrei sapere a proposito di Rai, perché questa cittadina, che sono qua da 10 giorni, sistematicamente i canali Rai non si vedono, sono oscurati, e viene fuori sempre la segnalazione no signal. Ma lei si trova in territorio italiano? Sì. Perché lei è proprio così al confine. In provincia di Gorizia. No, assolutamente. No. È un'isola in provincia di Gorizia e siamo sul mare. Ma proprio. E non prendete la Rai, non si prende la Rai. No, sistematicamente i canali sono quasi sempre oscurati, vanno a singhiozzo, c'è sempre la. Quindi la lunedì sera non potete vedere Montalbano, per esempio, che insomma. No, per dire. No, allora, ho citato una delle poche cose. Al vigile urbano ho chiesto per quale motivo. Ha detto che hanno fatto le proteste anche quelli che hanno la parabola e sistematicamente non si vede. Allora mi domando per quale motivo questa cittadina dovrebbe pagare il canone alla Rai. Magari non lo pagano, magari a Grado non lo pagano. No, ma le assicuro io che lo pagano. E poi volevo passare a un altro argomento, però sì, si avvicina molto. Immagini che quando si arriva in questo posto, e parlo sempre in Italia, Friuli Venezia Giulia, allora i telefonini, appena arrivi qua, tiene fuori la dicitura benvenuti in Croazia. Vabbè. E ti mettono la tarifazione dall'estero. Ma io le ho detto che lei è all'estero, lei è quasi all'estero, lei è al confine. Ma no, quindi. ma si figuri, ma no, sono a 55 chilometri oltre Trieste, immagina lei, no? Vabbè, cioè non ho capito, ma il telefono prende normalmente lì? Sì, certo che prende, però le viene scritto benvenuta in Croazia. Benvenuta in Croazia, sempre benvenuta in Croazia. Appena arrivi qua vicino al mare, c'è questa dicitura. Scusi, mi ripete benvenuta... il posto esatto dove si trova lei? È una specie Grado. A Grado ci sono dei problemi, diciamo di onde elettromagnetiche. Non prende la Rai, in compenso c'è il saluto della compagnia telefonica croata. Quindi facciamo un appello, non lo so a chi, perché risolva questa questione. Grazie Mariella, buona serata. Andrea da Ferrara. Sì, buonasera Maurizio, buonasera. Prego. Ascolti una cosa Maurizio, io se l'idea deve essere di pensare di Di Battista non solamente sindaco di Roma, ma in generale premier, ma premier Azzolini, ma davvero è inascoltabile Di Battista, inascoltabile. Vabbè, inascoltabile l'hai detto tre volte, perché... Ma cosa ha detto di inascoltabile? È l'orgia del populismo, che tra le altre cose racconta di loro quando amministrano gli enti locali. I sindaci che hanno fatto se li sfiduciano perché non gli piacciono nemmeno a loro. Chi, per esempio? A Comacchio, provincia di Ferrara, è durato 2 anni la giunta del sindaco, dopodiché si sono autovotati fra di loro, perché poi decidono online per loro e per tutti gli altri, perché nel momento in cui poi diventano sindaci decidono per loro e per chi non li ha votati. E dopodiché se non è più sindaco loro questo qui. Ma mi dica, non ho capito, perché lei preferisce Azzolini a Di Battista? Perché Di Battista? Perché con l'onestà e basta non si va da nessuna parte. Essere onesti può essere una cosa straordinariamente rilevante, non è sufficiente per governare. Ma lei avrebbe votato a favore di Azzolini perché lo conosce, è uno competente, è uno bravo? È uno bravo? È uno competente? A occhi chiusi. Ma che competenze ha Azzolini? Cosa fa? Ha occhi chiusi. Ma apra gli occhi, apra un attimo gli occhi. Cosa c'ha di buono Azzolini? Da tanto a difenderlo. Già solo il fatto che se è vero che è 12 anni presidente della commissione bilancio, io l'avrei rivotato 1000 altre volte occhi chiusi. Ma questa, scusi, cosa vuol dire? Cosa vuol dire? E aggiungo anche che secondo me mollare, delegare in maniera sistematica ai giudici tutto quello che compete l'attività. Ma non si tratta di delegare tutto, si tratta di valutare, no? Caso per caso, che c'entra? Non è delegare tutto. C'è questa... se una maggioranza parlamentare hanno votato, e per quanto mi riguarda hanno votato benissimo. E se dovesse essere l'alternativa a far governare i 5 Stelle, è roba da rifondare Glass. Scusi, però lei come fa a dire che hanno votato benissimo? Io stesso, che invece sono dell'idea che abbiano votato malissimo, però non sono così sicuro. Bisognerebbe aver letto le carte per sapere che hanno votato benissimo, perché lì su cosa si vota? Si vota sul fumus persecutionis, cioè se nei confronti di Azzolini c'è persecuzione, se no, se non c'è persecuzione non si deve proprio entrare neanche nel merito delle carte processuali, e questo il discorso, per quello si vota, no? Ho avuto Ottaviano Del Turco che si è fatto la galera, salvo poi scoprire che c'era effettivamente il fumus persecutionis. Ma questo vale anche per i cittadini comuni, però, mi scusi, perché ci sono 12 persone che sono già state arrestate per questa inchiesta e l'unico che non è stato arrestato è Azzolini, solo perché è un parlamentare. Questo è il privilegio del parlamentare, ha capito? Non è la questione, perché sennò vale anche per gli altri. Infatti io te ho detto un ragionamento riferito alla magistratura, che nel momento in cui si delega con questa ampiezza ai compiti della magistratura, poi si fa finire che ci si sgrugna, e dovrebbero bastare 20 anni da Mani Pulite da far capire su che cosa ci siamo sgrugnati dopo aver fatto piazza pulita di una classe politica. Quindi un discorso che viene da lontano, non è una novità di adesso. Va bene, grazie, comunque buona serata, traffico. Si può fare l'attualità anche d'estate. Quasi su tutto gli italiani, tra Azzolini, tra sostenitori di Azzolini, sostenitori di Di Battista, sulla questione della casta, sulla questione di Roma, ricompattiamoci attorno a quella che sembrerebbe invece essere una buona notizia: il baratto delle tasse, l'ultima frontiera fiscale prevista dall'articolo 24 del decreto sblocca Italia, è una cosa che sta prendendo piede. Hai un debito con il comune e non riesci a pagarlo, puoi scegliere di fare i lavori socialmente utili. Ne parliamo con un pioniere di questa cosa qua, il sindaco di Massarosa, Franco Mungai. Buonasera a tutti i vostri ascoltatori. Buonasera, è un piacere poter raccontare la nostra esperienza. Anche perché siete tanto, diciamo, apripista di questa possibilità recente, che avete organizzato ad ottobre un convegno nazionale, perché tutti le stanno chiedendo come funziona questa cosa qua. Sì, in effetti abbiamo avuto, è dall'inizio dell'anno che noi siamo partiti con questa esperienza e abbiamo avuto una grande massa di richieste da tutti i comuni d'Italia, da molti comuni d'Italia, dal sud al nord. Veramente siamo incuriositi anche noi di vedere, di capire come hanno applicato questa cosa che abbiamo tirato fuori per primi, e come, con la consapevolezza anche di poterla migliorare, perché poi si può sempre anche migliorare. Certo, come avete iniziato voi lì a Massarosa? Allora, abbiamo iniziato in questo modo, abbiamo detto: se ci sono dei cittadini che hanno interesse di fare delle cose che sono utili alla collettività, noi siamo disponibili a scontare del 50% le tasse nella fattispecie la tassa sulla spazzatura, la Tari. E quindi un massimo, scusi se interrompo subito per capire, un massimo del 50%. Io ho un debito 50%. Di 100 euro, posso scontare al massimo 50, se sono 1500. Esatto, e diciamo, e abbiamo fatto un bando al quale hanno partecipato oltre 100 cittadini e 10 associazioni di volontariato. 100 cittadini? Non sono pochi. Ora, Massarosa quanti abitanti fa? Provincia di Lucca? Massarosa fa circa 22.500 abitanti, è un comune che è interposto abbastanza tra grande. Lucca e Viareggio, è il comune del lago di Massaciuccoli, quello tanto caro a Puccini. Certo. Comunque 100 non sono pochi, neanche per una cittadina come la vostra. No, poi se si considerano anche gli appartenenti alle associazioni di volontariato che hanno aderito, si passano abbondantemente 200, quindi diciamo la massa dei cittadini interessati è di tutto rispetto. E che tipo di percorsi, di progetti avete messo in piedi? Ci fa un esempio di una cosa tipica che avete fatto, un cittadino che aveva un debito e che lavoro sta facendo? La cosa più classica è quella di tenere pulite le strade, i cigli delle strade, tagliando l'erba. Quindi mediamente è toccato a ciascun cittadino di tagliare circa 1,2 km di strada, poi la pulizia dei parchi, la pulizia delle residi delle scuole, la preapertura al mattino della scuola quando si dà la possibilità ai genitori di lasciare i figli prima dell'orario che arrivino il personale addetto. Si parla di imbiancatura delle aule scolastiche, si parla di presidio sui pulmini, sulle scolabus, perché non ci siano fenomeni di bullismo. Cioè, si tratta di fare una serie di lavori. Cioè, lavoretti, insomma, non particolarmente complessi. No, anche per dire sulle potature, non abbiamo cercato potature di alberi in altezza che potevano essere pericolosi per quelli che poi facevano questa attività. Lavori alla portata di tutti, lavori che possono essere facilmente eseguiti da qualsiasi cittadino. E come vengono retribuiti questi lavori? Facciamo, non so se hai in mente un esempio tipo che le avranno già chiesto di raccontare. Tot ore di pulizia dei giardini corrispondono a che sconto? Diciamo, tutto sommato non si va a ore, perché poi è diventato anche un momento di aggregazione, perché questi cittadini poi li abbiamo raggruppati a 3 o 4 insieme, perché si socializzino anche, perché trovino un momento di svago e di passatempo. Diciamo, mediamente tocca 1,2 km di strada da pulire, però non è detto. A che sconto di, diciamo, fiscale lo corrisponde? Lo sconto si va dalle 3 alle 400 euro di riduzione della Tari. Io ho una Tari di 300 euro che non riesco a pagare, che pulisco 1,2 km. E va in pari, esatto, qualcosa del genere. Diciamo, in questo modo abbiamo una cura del territorio molto, molto più attenta, perché è chiaro, i vantaggi si vedono. Ma non c'è, adesso voglio fare così l'avvocato del diavolo, no? Qualche controindicazione, cioè il rischio che tutti vogliano a un certo punto fare questa cosa qua e il comune non incassa più una lira. Ci sono dei limiti. Era il nostro dubbio che avevamo inizialmente, però dopo alla resa dei conti abbiamo visto che la cosa era sostenibile, quindi tutti quelli che hanno chiesto di aderire le abbiamo poi presi, tant'è vero in corso d'anno abbiamo anche riaperto i termini, se c'era qualcuno che non era stato informato, che voleva aderire di seconda. C'è una cifra massima, oltre la quale non si può andare? No, non c'è una cifra massima, non esiste una cifra massima. Uno può abbattere anche un debito di 10.000 euro teoricamente. Ma 10.000 euro non si arriva con quel tipo di tassa sulla quale facciamo lo sconto noi. Solo sulla Tari, parliamo solo della Tari. Solo sulla Tari. Però il decreto Sblocca Italia prevede anche altre possibilità? Prevede anche altre possibilità, verità, però noi bisogna far conto anche sulle entrate, perché poi i nostri bilanci sono finanziati da quel tipo di introito, quindi non è che si può mettere in crisi il le casse del comune. È un inizio, è un inizio. Esatto. Staremo a vedere. Grazie intanto per essere stato con noi, al sindaco di Massarosa, Mungai. Buona serata. Il baratto delle tasse, cosa ne pensate? 800 24 00 24. Ci risentiamo dopo il giornale Rai. Se leggerai questa lettera vorrà dire che sei uscito. E se sei arrivato fin qui, forse hai voglia di andare un po' più lontano. A volte basta accendere la radio per ritrovarsi comodamente seduti al cinema. Ma una storia speciale che somiglia un po' a un film, un po' a un romanzo e un po' a un ricordo personale è qualcosa di unico che può arrivare solo attraverso la radio. Non voglio entrare nei dettagli di quel periodo, ma posso dire che ci sono stati dei giorni molto brutti e dei giorni inaspettatamente stupendi. Audiogrammi. All'ingresso del tunnel non ho tenuto le braccia alzate come se stessi volando. Ho lasciato soltanto che il vento mi investisse il viso e ho cominciato a piangere e a sorridere contemporaneamente. Audiogrammi Reloaded. Una storia come non l'avete mai ascoltata. Ogni domenica alle 18 su Radio 24. E in podcast su radio24.it. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Di ieri non c'è, praticamente abbiamo fatto file immense, non ci hanno dato da mangiare, non ci hanno dato da bere. Cioè noi siamo stati qua, io sono stata qua fino a l'una di notte con la gente che urlava, la gente che si è sentita male, un ragazzo è stato portato in ospedale. Gente in che ospedale. Prende degli attacchi diabetici, cioè, e ci dicono addirittura che oggi non partiamo. Io mi sono fatta una settimana di vacanza, mi sono fatta un culo per guadagnarmi questi soldi e andarmene in vacanza una settimana. Non si fa così. Buonasera di nuovo da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare. 18 20 e 30 800 24 00 24. Avete appena sentito le voci disperate di una turista spagnola, di un po' meno disperata di una turista italiana, oggi a Fiumicino. Come se non bastasse tutto quello che è accaduto nelle ultime ore, compreso il rogo di ieri, oggi c'è stato un blackout, lo sapete, però non tutto accade a Roma, ma non è un, come dire, qualche cosa che allevia i guai, anzi peggiora la situazione, perché ci ha chiamato un ascoltatore oggi, come dice Lenny Kravitz, fly away, volare via dall'Italia è stato un problema, perché per esempio a Milano hanno dovuto aspettare a Linate un'ora il ritiro dei bagagli, e, insomma, è un'estate che sta partendo male, col piede sbagliato. Sentiamo il sindaco di Roma, Ignazio Marino, il giorno dopo, 24 ore dopo il varo della nuova giunta. Cosa dice? Sentiamo. Noi abbiamo tolto in due anni la melma, sai, è un po' come quando purtroppo a Firenze c'è stata l'alluvione, c'era fango, c'era melma da spalare via. Chi amministrava la città in quel momento e chi a livello nazionale ne aveva la responsabilità si è preoccupato di mandare prima gli archivisti che rimettessero in ordine alfabetico i libri o di spalare la melma? Noi ci siamo occupati prima di spalare la melma e adesso rimettiamo in ordine la città. Nessuno, tanto meno il Presidente della Repubblica, che non ha poteri di scelta politica, è, per usare la sua metafora, un uomo solo al comando nel nostro Paese. Non è possibile in democrazia. E la nostra Costituzione disegna un sistema equilibrato e questo equilibrio esiste e rimarrà nella Costituzione. Chissà che pacatamente, sommessamente, tranquillamente, sonnecchiando quasi, come è nello stile di Mattarella, questo non sia invece un, in qualche modo, un messaggio rivolto al tema delle riforme istituzionali del Senato in particolare, ma c'è anche l'Italicum, ma soprattutto il Senato, per quanto riguarda appunto, insomma, le critiche che sono giunte a queste riforme di, come dire, polarizzare troppo i risultati delle elezioni, la possibilità di manovra all'interno del Parlamento, tutto concentrato nelle mani di una maggioranza, quindi di un uomo solo al comando, il Partito della Nazione, il progetto di Renzi. Chissà che questo appunto non sia, non so come lo leggete voi cari ascoltatori, ma potrebbe anche essere, quando dice garantirà il rispetto degli equilibri della Costituzione, si garantirà anche in futuro, potrebbe anche essere un io certe cose potrei non firmarle, chissà. 800 24 00 24. Un'ultima voce politica di giornata è Civati, che avanza un sospetto che molti hanno scritto: Verdini e Berlusconi, tutta una farsa. Io ho l'impressione che anche in questo caso Dennis e Silvio siano d'accordo. È una mossa perfetta. Cioè? Cede alla maggioranza uno dei suoi uomini più fidati, amico di Renzi. Il loro agente a Lavana. Il loro agente a Lavana si garantisce due cose. Che, beh, sulle ragazzi, riforme può intervenire con il Ceravetto. No, scusami, fammi finire. Grazie, che tu sei dotto, io molto meno, ma mi sono fatto questa idea. Dopodiché, nel caso dovesse andare male, può rimettere insieme i Rolling Stone, che sono Salvini, magari al sud della Carfagna, magari al centro. Io vedo più Rolling Stone da voi, però poi ne parliamo. No, noi siamo usciti. Io vedo più cantanti rock da voi. Frusciante uscita. Anche se un tot di gente ancora non ci crede. Allora, è stata depositata ufficialmente ieri la proposta di legge bipartisan sulla legalizzazione del consumo di cannabis. 220 firmatari, un gruppo interparlamentare che sta crescendo, PD, Forza Italia, Movimento 5 Stelle, SEL, e che chissà che dove, fin dove può arrivare. Tra le cose che sono previste, anche il modello spagnolo dei social cannabis club. E noi abbiamo qua con noi Emilio Napoli, che è segretario del Cannabis Social Club With You di Barcellona. Buonasera Emilio. Buonasera a voi ascoltatori di Radio 24. Allora, questa legge, questa proposta di legge italiana prevede la possibilità di un consumo e anche di un'autoproduzione, di un'autocoltivazione, ma soprattutto il fatto che si possa acquistare e consumare, proprio come avviene in Spagna, la cannabis, la marijuana, nei social club. Come funziona lì da voi in Spagna? Tu sei partito dall'Italia per aprire un social, un cannabis club in, come si chiama? In Spagna ci sono da 9 anni, in verità ci sono venuto per lavorare come art director in pubblicità. Sì. Solo che dopo tanti anni, si è vista la possibilità, è nata questa nuova realtà sociale, perché in verità, sì, a differenza di quello che si immagina in Italia, qui è nato come una realtà sociale, come una rivendicazione sociale, approfittando di quello che era un voto legale. In che senso una rivendicazione sociale? Cioè, approfittando del fatto che ci stava la possibilità legalmente di fare un'autoproduzione in casa per autoconsumo, sono nate delle associazioni, quindi dei club di fumatori, che sono in pratica delle associazioni di persone, dei gruppi di persone che si riuniscono per poter discutere, per poter in pratica consumare collettivamente questa sostanza, che previamente producono in un purtroppo in un posto attualmente nascosto, perché la legge ancora non ci permette di farlo legalmente. Sì, quella che è la fase di produzione e di trasporto. Non so se hai seguito il club. Sì, prego. La sostanza è a disposizione di tutti i soci, di tutti che previamente vengono iscritti e appartengono a questo circuito privato di persone e quindi possono accedere alla sostanza all'interno del club. Ecco, ma se ho capito bene, anche la proposta di legge italiana prevede la stessa cosa, cioè lo stesso modello da questo punto di vista. E quindi, diciamo, come funziona lì da voi? Cioè ci si iscrive al club, si paga sì, una quota? Come funziona in pratica? Ci si iscrive al club, sì? Previamente accompagnati da una persona che è già socio del club. Sì. Questo per riservare il fatto che è un circolo privato di persone che si conoscono. Mm-hmm. Quindi bisogna sempre essere accompagnato da un socio. Una volta iscritto al club, pagando una quota associativa di annuale, entra a formare parte di quello che è questo gruppo di soci. Una volta dentro sei parte di un'associazione che di fatto non solo dispensa marijuana e hashish, sì, prodotto da noi, però realmente realizziamo tutta una serie di attività culturali, quali esposizioni d'arte, eventi musicali. Vabbè, questo immagino, monologi, perché come ogni circolo poi ognuno fa quello che va, però la esatto, sostanza, la cosa, diciamo, la cosa che cambierebbe in Italia è che, come accade da voi, che si può consumare e anche acquistare. Uno può comprare quante canne vuole? No, c'è una, vabbè, nel nostro caso ogni associazione ha il proprio statuto, nel nostro caso il massimo mensile è di 80 grammi. 80 grammi in un mese, che fanno, questo, fanno 2 grammi cambia, al giorno, 2 grammi e mezzo al giorno. Sì, però e quante, scusa, seconda di quella che è la dichiarazione che sì, il socio stesso fa al momento di iscriversi. Quindi nel vostro caso 80 grammi al mese, quante canne mi ci posso fare con 2 grammi e mezzo al giorno? Vabbè, questo è molto personale, dipende, però noi di solito diciamo calcoliamo uno 0,3 per una canna, quindi moltiplicato per 3, 2 6, facendo 8. I conti, diciamo che ci fai un bel po' di spinelli, insomma, per dire, in un certo modo. La persona che è più abituata a fumare ce ne può fare 5, però da 5 a 8 ce li fai tranquillamente. Sì, insomma, non è poco. Poiché voglio dire una cosa, io personalmente, ma anche per quello che ci si può, proprio voi sui danni per la salute, siete preoccupati, dite qualcosa? Perché è chiaro che fumare una canna rispetto a un pacchetto di sigarette, qualcuno mi deve ancora dimostrare che fa più male la canna del pacchetto di sigarette. Però se parliamo di 10 al giorno. È importante rimarcare una cosa, che lo stesso socio, sì, in quanto tu considera, noi non accettiamo minori di 21 anni, no? Proprio perché sì, pretendiamo che siano persone comunque consapevoli di quello che fanno, che hanno già sviluppato il loro cervello a pieno delle loro capacità mentali e quindi decidono personalmente, decidono di spontanea volontà di consumare cannabis, no? Loro stessi ci dichiarano quanto consumano, quindi non è che tutti consumano 80 grammi, se no, se una persona sa che consuma 20 grammi mensilmente ci dichiara 20, sì, e noi produciamo questa quantità per lui. Ognuno poi decide, esatto, di fare quello che vuole. Conosce il proprio consumo. Questo è nella logica della liberalizzazione, poi ci saranno dei limiti. Ma lì in Spagna, diciamo, la regola che voi vi siete dati, per esempio, di 80 grammi in un mese, uh-huh, ci sono altri club dove non c'è un limite, oppure ognuno. No, il limite c'è, il limite massimo che viene consentito, diciamo, dalla legge del club è di 150 grammi al mese. Ok. In verità. Che è più però del doppio di quello, il doppio di quello che fate voi. Una serie voi di sentenze di giudici, sì, che hanno in pratica dichiarato questa quantità accettabile come consumo personale. Ok. Però di fatto non esiste una legge che dice che. Vabbè, c'è una. Anche in Italia succede spesso che non c'è una legge, ma ci sono delle sentenze che fanno giurisprudenza. Legge. Quanto costa un grammo di fumo da voi? Questo, guarda, può variare tantissimo a seconda della qualità che viene prodotta, dai tempi di coltivazione della pianta, però di base si mantiene sempre quello che è il costo di produzione più il costo di gestione dell'associazione, di fatto, perché no, essendo associazioni senza animo, senza fini di lucro, non siamo un commercio. Di conseguenza i prezzi della sostanza sono realmente molto più bassi di quello che potrebbe essere il mercato nero italiano. Stiamo parlando di la marijuana può variare tra i 5 e i 10 euro al grammo, sì, a seconda delle qualità, e quella che sono le hashish varie resine, hashish normali, diciamo idem, possono variare tra i 6 e i 10 euro al grammo. Invece se parliamo di estrazioni un poco più qualitative, come potrebbero essere isolator o altri tipi di sostanze, evidentemente parliamo di prezzi maggiori, perché si cioè là è una questione tecnica. Dalla pianta si recupera realmente molta poca sostanza. Ok. Di conseguenza, senti, il prezzo aumenta. Puoi restare con noi, Emilio? Facciamo una piccola pausa per la pubblicità, la borsa, poi torniamo. Ti voglio chiedere anche chi sono gli iscritti al tuo circolo: gente normale, gente che lavora, disoccupati, gente che magari anche in carichi di responsabilità. Non bisogna mettersi a guidare, per esempio, dopo che si è fumato una canna, ovviamente. Quindi c'è anche la curiosità di sapere chi sono le persone che frequentano il tuo circolo a Barcellona. With you, a tra poco. si può fare. L'attualità anche d'estate. Oh Maria Salvador, ti chiaro mio amore. Sveglia, suona, buco in pancia, scendo, moca, radio, corro, salgo, denti, doccia, barba, leggo l'iPhone sulla tazza. I russi coi miliardi fanno shopping da trustardi, una volta erano zar, sono diventati zarri, sono tutti presi male dall'invidia verso gli altri, serve mantenersi calmi con il metodo Bob Marley. Oh Maria Salvador. Stavo parlando della proposta di legge depositata ieri di legalizzazione del consumo e anche in parte della produzione di cannabis in Italia. Si prevede anche per l'Italia di inserire nell'ordinamento la figura dei cannabis social club, che è quello che avviene in Spagna, e noi siamo con Emilio Napoli, che è segretario del Cannabis Social Club With You di Barcellona. Emilio, ci hai parlato del consumo, no? Del limite che il vostro circolo si è dato di 80 grammi al mese, ma per quanto riguarda la produzione, la legge italiana, quel che abbiamo capito, prevederebbe la possibilità di coltivare fino a 5 piantine per ogni persona. Questo è molto interessante che hai toccato questo punto, perché sì, in realtà la questione numerica della pianta non sarebbe una questione, non sarebbe il modo giusto di approcciare la questione. Perché una pianta potrebbe produrre da 10 grammi a 1 chilo. A seconda delle condizioni in cui viene posta della pianta, coltivare. Certo. Cioè, una pianta grande produrre anche un chilo? Esattamente, se messa nelle giuste condizioni potrebbe arrivare a produrre tranquillamente, non dico un chilo, però almeno 600-700 grammi. Se messa in condizioni estreme di massima qualità ci potrebbe arrivare. Quindi 600-700 grammi per 5 piante quanto farebbe? Evidentemente stiamo parlando di cose che non avrebbero comunque di base, non sarebbe un parametro uniforme per tutti, a questo mi riferisco. Perché se tu stai calcolando, è come calcolare la produzione dei pomodori sul numero di piante. Beh, certo, ma invece in Spagna come funziona? Cioè ogni circolo può produrre una quantità in base agli iscritti? Conta su grammi in Spagna, perché è di base quello che... Ma in base agli iscritti, cioè più iscritti hai più puoi produrre? No, di base tu produci la quantità che hai dei tuoi iscritti, che realmente poi sono non solo iscritti ma i frequentatori reali del club. Perché noi abbiamo dei sistemi di gestione dei soci informatici che ci permettono di sapere in tempo reale ogni mese quanti soci realmente frequentano il club e ogni mesi realmente quanto si distribuisce. Cioè, possono essere prodotto anche di più dei soci frequentatori, amici che magari vengono per una sera? Può succedere anche questo? No, questo no. Gli amici possono al massimo passare come invitati a visitare il club, ma sempre previa registrazione nel club, con documenti alla mano. Ok. Senti, perché è proibito l'accesso ai non residenti. Un'ultima cosa, se ce lo puoi dire, insomma, chi sono gli iscritti? No, nome e cognome, insomma, che loro fanno, che gente è. Molto interessante, perché di fatto noi abbiamo un target molto, cioè abbastanza alto, perché abbiamo un target che varia tra i 35 e i 45 anni, sì, e soprattutto di molti professionisti di ogni tipo di settore, da medici, avvocati, e poi c'è anche il fatto che comunque noi avendo un medico proprio dell'associazione che cura tutta la parte terapeutica, sì, utilizzando dei prodotti che realizziamo noi stessi per la linea terapeutica, estratti in CBD, estratti in THC, abbiamo poi tutta una serie di soci che sono terapeutici e che vengono all'associazione per curarsi realmente. Quindi per curarsi che cosa? Di persone anziane di 70 anni, di 60 anni, come ragazzi giovani, e stiamo parlando di patologie quali sclerosi multipla, cancro, morbo di Crohn e tutta una serie di patologie che la scienza ha dimostrato, la medicina ha dimostrato che realmente il cannabis. No, questo è il famoso uso terapeutico, di cui si discute molto anche in Italia e che è previsto pure nella legge. No, io parlavo dei consumatori, quelli diciamo abituali, gente che viene lì per fumare, per distendersi, per rilassarsi. Dal giovane di 25 anni alla persona di 60 anni che viene con moglie e marito, ci sono anche persone che vengono in famiglia, onestamente, con i figli anche. È molto simpatico come situazione, perché realmente ti rendi conto che è come andare al bar a prendere una birra. Ma c'è scritto da qualche parte che ne so, dopo che hai fumato più di una canna, non metterti al volante o cose di questo genere? Noi consigliamo sempre un consumo responsabile del cannabis, evidentemente. Poi abbiamo la fortuna di vivere in una città dove di fatto la maggior parte delle persone non si muovono con moto o macchina, ma si muovono con bicicletta. Quindi uno può fumare tutto quello che gli pare. No, dico, quindi uno può fumare tutto quello che gli pare e non è. Diciamo di sì, perché alla fine va a casa o in tacchi. No, tu ci scherzi, ma è quello che succede, per esempio, quando si esce fuori a cena e se uno vuol bere un bicchiere in più o anche semplicemente due bicchieri, esatto. Se non c'hai la sigla della macchina, sei più tranquillo. Una persona che esce a fumarsi una canna non torna a casa in condizioni da non poter guidare. Va bene. Una persona che esce a fumare una canna può tranquillamente mettersi al volante, che non gli succede niente. Perché dipende anche qui, tu mi insegni da quanto fumo c'è dentro, eccetera. No, dipende pure dalla da quanto la persona è abituata. Persona, cioè nel senso da quanto la persona si è abituata. Comunque non è il massimo, non bisogna mettersi a guidare. Non è consigliato, assolutamente. Grazie Emilio. Ciao, auguri, in bocca al lupo. Grazie mille a voi e a tutti gli spettatori vostri. Grazie, ciao. Questo era il Cannabis Social Club With You di Barcellona, 800 24 00 24. Cari ascoltatori, che ne pensate? Questo è quello che accade in Spagna, è quello che più o meno mutatis mutandis potrebbe accadere in Italia qualora la legge che è stata presentata ieri in Parlamento dovesse prima o poi essere votata. Allora, abbiamo un po' di ascoltatori in attesa da un po'. Cominciamo con Gaetano da Lodi. Buonasera Gaetano. Salve, buonasera, come va? Bene, lei? Insomma, fino a 20 minuti e mezz'ora fa andava tutto bene, almeno mi sembrava di vivere in un contesto dove c'era del male e del bene da una parte. Poi che è successo? Poi ho sentito quell'ascoltatore che commentava l'intervista che avete fatto a Di Battista in merito alla questione Azzolini e quant'altro, e mi è salita la pressione a 250.000 bar. Anche quello che difendeva Azzolini? Sì. Tra l'altro io francamente, siccome sono in macchina con mio figlio che ha 17 anni, no? A un certo punto mi sono trovato imbarazzato, perché dico, qui delle due lune, o ci dico a questo che sta a fianco a me e che a cui dovrei impartire dei valori sani, no? Gli dico che guarda che tutto quello che sta dicendo questo signore è vero, purtroppo io quello che ti ho detto fino ad oggi è tutto sbagliato, devi seguire questo, cioè morale. Se lavori o fai amministratore di società, devi fare bancarotta fraudolenta, perché così si va avanti. Non devi osservare le regole e le leggi che esistono. Se fai così, probabilmente andrai a fare il presidente della commissione di bilancio per 20 anni, cosa che peraltro sembra essere un vanto, no? Cioè, io che faccio il presidente della commissione di bilancio, per definizione dovrei essere uno che nemmeno il bilancio del mio condominio dovrei sbagliare. Cioè, è un bel paradosso che il presidente della commissione bilancio per 12 anni sia per due volte indagato e per una volta richiesta d'arresto per bancarotta fraudolenta. Ripeto, vallo a dire in giro per il mondo, ti dicono dietro. Il 10% di quello che lo accusano, o presumibilmente lo accusano di aver fatto, già sarebbe significativo per buttarlo fuori. Cioè non esiste nemmeno lontanamente una roba del genere. Allora io ho l'impressione che in questo paese qua si hanno saltati tutti gli schemi di razionalità e dei valori che fino a pochi anni fa erano normali, no? Vabbè, Gaetano, c'è la legge sull'immunità che prevede questo voto per la richiesta della magistratura, questo da tempo è un'anomalia. Però da qui a dire che Azzolini, siccome ha fatto per 20 anni o per 12 anni il presidente, no, quella la trovo una motivazione stupida anch'io. Siccome è stato per 12 anni presidente della commissione bilancio, allora vuol dire allora sarà bravo. Non lo so, è bravo fino a prova contraria, adesso bella prova un po' contraria è arrivata, dopodiché poi uno può pensare che la magistratura a prescindere perseguiti i politici, ma in questo caso ha perseguita anche altre 12 persone che sono state già arrestate per questa inchiesta. Grazie Gaetano, buona serata. Grazie. Andiamo con Massimo da Milano. Massimo, buonasera. No, non andiamo con Massimo perché Massimo non c'è. Andiamo con Simone da Roma. Allora, buonasera a tutti. Grazie. Buonasera, Simone. Allora, io volevo dire la mia in merito invece al discorso della legalizzazione delle droghe e anche all'ospite che avete intervistato poco fa. Sì. Secondo me ho trovato molto irresponsabile da parte sua dire sì, chi si fa una canna può anche mettersi al volante. Lo trovo di una gravità unica da parte del stato dell'intervistato. Mi riferisco che ha detto questa cosa che non condivido. Sì, guardi, probabilmente anch'io, io infatti gliel'ho detto subito, non sono d'accordo. Probabilmente è come chi ritiene di tollerare bene l'alcol e pensa che dopo aver bevuto due bicchieri di vino possa guidare tranquillamente. Ora io non lo so, bisognerebbe fare delle prove scientifiche sui riflessi di chi tollera così bene l'alcol se riesce a guidare, però non è mai buona norma dopo aver bevuto guidare, e lo stesso per la canna, non si fa, a parte che ci sono, certo, dei limiti per cui se ti pescano ti levano la patente. Ma infatti soprattutto la mia obiezione era in questi social club dove si parla tanto di funzione sociale, sì, appunto, come anche giustamente ha detto lei, ma poi hanno informata la gente sulla pericolosità del mettersi al volante e di guidare dopo aver fumato? L'intervistato ha detto no, sì, per carità, ma Barcellona è una città abbastanza dove si va con i mezzi, si va con la metropolitana e con l'autobus. Questo è vero, lo posso testimoniare, sì. Sono stato a Barcellona diverse volte. Però io mi immagino in Italia, dove comunque i mezzi sono quelli che sono, anche dalle recenti cronache, e tutto, l'uso della macchina o della moto è molto più frequente. Tutta questa coscienza io purtroppo non la vedo, e soprattutto in un momento in cui è passata la legge sull'omicidio stradale, finalmente è una cosa importante, sì, si legalizzano gli strumenti per invece, come dire, si legalizza la droga, che è una delle cose che andrebbe invece combattuta e per cui si è fatta questa legge. No, bisogna combattere l'abuso, bisogna combattere il commercio illegale, qualora fosse legalizzata bisogna combattere sicuramente l'abuso. E poi ci sono delle chiaramente, se uno si fa una cannetta prima di andare a letto a casa sua la sera, non fa male a nessuno, a chi fa male, cioè voglio dire, non rischia niente. Però sono d'accordo con lei, se uno mi dice ma nel nostro circolo fumiamo tranquillamente poi usciamo fuori con la macchina a tutta velocità, è una pazzia, è una follia. Dice che a Barcellona hanno i mezzi pubblici, beati loro. Però non lo so cosa potrebbe accadere a Roma, dove i mezzi pubblici non ci sono, a proposito, e dove quando ci sono non passano. Grazie Simone, buona serata. Chi ci abbiamo? Quello di prima di Milano, l'abbiamo recuperato. Milano, Massimo? Niente. Allora andiamo con Emiliano da Vicenza. Cioè la moria degli ascoltatori, stanno cadendo uno dopo l'altro. Andiamo allora con un altro ascoltatore all'800 24 00 24, Gianfranco da Napoli. Gianfranco? Ma che succede? È saltato tutto, speriamo di no. Costantino da Latina, è la nostra ultima chance. Se non sì, c'è eccomi. Lei, mi alzo e me ne vado. C'è, vai. C'è, ci sono, eccomi. Sì, prego. Un po' stanco ancora, però... Come mai? L'esperienza drammatica questa notte. Che è successo, Costantino? Allora, è uno dei partenti, o aspiranti partenti per un volo Vueling da Fiumicino. Sì. Volo delle 22:10 di ieri alle sera 19:15. Sì. Ho chiesto informazioni visto che c'era stato quell'incendio di cui si parlava. Certo. Mi ha detto no, nessun problema, quindi partiamo regolarmente. Preciso che non ero da solo, con tutta la famiglia, la prima bimba di 3 anni. Quindi ho fatto il check-in, ho spedito il bagaglio da spedire e mi sono apprestato ad avvicinarmi alla gate, insomma. Sì. Fino alle 9 niente, alle 9 a fare la scritta, cancellato il volo. Guardi, a me è successa una volta la stessa cosa, uguale, adesso poi... Prego, racconta. La cosa che ecco, io ho viaggiato moltissimo nella mia vita, insomma, ho fatto oltre 500 voli, mi è capitato diverse volte di avere cancellazioni, ma non mi è mai successo come mi è successo ieri a Fiumicino. No, mi scusi, allora, c'entra qualcosa con l'incendio che c'è stato nella Pineta? No. Sì. Solo che fino a un'ora prima le hanno detto che andava tutto bene, imbarcati i bagagli, fatto il check-in. Ho fatto la carta di imbarco, ho spedito il bagaglio. E poi dopo il volo non è partito. Al gate chiuso, cancellato. Era abbondantemente prevedibile, quindi non si capisce perché l'hanno fatto imbarcare il bagaglio. Da alcune ore era così la situazione. La cosa più grave è la mancanza totale di assistenza senza informazioni. Eravamo circa 600-700 persone stipate davanti ai banchi da Vueling, strizzate davanti ai banchi da Vueling, con assenza totale di informazioni, di assistenza, 2 ragazzine a gestire l'emergenza, con momenti di panico, una ragazza incinta stava portando l'ambulanza d'urgenza. Ma quindi poi voi non siete mai partiti? Lei adesso è ancora a casa, non siete più partiti? Assolutamente no. Rinuncia alla vacanza. Mi hanno detto, sono riuscito ad arrivare al gate, ma hanno detto che praticamente avrei l'unico che volevo iscritto è per domenica. Mi hanno detto sì, ti diamo l'albergo. Alle 3 di notte è arrivata la comunicazione che l'albergo c'era, forse a Fiuggi appena arrivava l'autobus. Mm. Io a volte ho la sensazione che qualche ruolo ce l'abbiano anche le compagnie aeree, che ti mollano lì, non soltanto l'aereo. In particolare ha fatto una cosa scandalosa, vergognosa, guardi, sono stati momenti veramente drammatici, intervento della polizia, dei carabinieri, momenti di assoluta incapacità a gestire anche una situazione che doveva essere normalizzata. Va bene, grazie Costantino, in bocca al lupo per... Io dico, tutti quelli che erano ieri a Fiumicino a fare come me, ho fatto esposti all'ADR, quindi alla società che gestisce l'aeroporto di Fiumicino, e all'ENAC, che ha un sito specifico per la possibilità di segnalare queste cose assolutamente fuori dalla normativa. Va bene, grazie, in bocca al lupo ancora per il viaggio che avrebbe dovuto fare e che per ora è stato cancellato. Vecchi del mio paese se ne stanno seduti al bar e ridono di quelli che vanno di corsa. Duella con il disastro, la gente della mia età, e tutto è una prova di forza. Eccoci qua, buonasera a Paolo Nespoli, astronauta. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Astronauta sessantenne, ha fatto notizia, ha fatto scalpore il fatto che a 60 anni ci si possa rimettere in gioco. Normalmente gli anziani, come dice Giovanotti, se ne stanno seduti al bar. Anziano a 60 anni forse no, io ne ho 44, quindi non siamo neanche così distanti. Però, Nespoli, pronto? Ci è rimasto male che l'abbiamo definito anziano. Nespoli? Pronto, ci siete sempre? Parlo con la luna? Eccolo qua. No, è andata via il collegamento. No, pensavo si fosse offeso perché ho chiamato anziano a 60 anni. No. Ho sentito parte della domanda, però insomma mi sembrava di capire cosa è 60 anni. Innanzitutto non ho ancora 60 anni. Sì. Avrò 60 anni quando andrò nello spazio, cioè tra un paio d'anni. Sì. Però l'età anagrafica conta fino a un certo punto. Per andare nello spazio, come in tante altre cose, occorrono, l'età anagrafica è secondaria, insomma. Già il fatto che l'età anagrafica non conti dal punto di vista fisico, eccetera, eccetera. Già il fatto che l'età anagrafica non conti è una bella notizia, perché insomma in passato forse a 60 anni una missione del genere non si sarebbe potuta affrontare, anche per le condizioni fisiche in cui ci si poteva trovare a quell'età. Lei è in forma fisicamente? Penso proprio di sì. Ma diciamo che sono normale, non sono un super fisico, sono una persona normale, non faccio palestra esageratamente, faccio un paio di volte alla settimana un po' di attività fisica, sto attento a quello che mangio, faccio un controllo medico ogni anno come astronauta, quindi la prevenzione è estremamente importante, insomma cose normali. Niente di cose fuori dal mondo. Senta, ma che missione sarà questa che andrà a fare fra due anni? Ma questa è una missione che l'Italia ha maturato nei confronti della NASA per il progetto MPLM, che è un progetto nel quale l'Italia ha costruito dei moduli per la Stazione Spaziale Internazionale, e come ritorno per aver dato questi moduli alla NASA ha ricevuto in cambio voli di astronauti e spazio per fare esperimenti in orbita. In questa missione, che sarà una missione di lunga durata di 5 mesi e mezzo, 6 mesi, sostanzialmente starò sulla Stazione Spaziale Internazionale a condurre esperimenti scientifici, in parte come braccio degli scienziati e in parte come cavia. Questo è un po' il lavoro dell'astronauta. Certo, esperimenti condotti da lei ma anche su di lei. E questa recente scoperta di questa seconda Terra, no? Così è stata definita, Kepler, com'è che si pronuncia? 45-2b o 452b, la trova intrigante? O è troppo lontano? Io ho sempre sostenuto, quando mi fanno domande, sicuramente da qualche parte dell'universo ci sono non uno, non cento, ma mille o diecimila o centomila pianeti simili alla Terra. Ora questo, essendo molto simile alla Terra, non è di fatto vicinissimo, è un po' lontanino, a distanze astronomiche dietro l'angolo. Comunque sono sempre qualcosa come più di mille anni luce tra arrivarci. Il che vuol dire distanze che adesso noi non possiamo neanche, cioè una distanza, questa qua è una distanza incolmabile al momento, proprio in assoluto, o ci si può pensare? Assolutamente. però insomma, alla fine abbiamo visto nel corso dei secoli che tutte le volte che abbiamo capito qual è il problema, poi come esseri umani siamo riusciti a trovare una soluzione. Ora sappiamo che un pianeta simile alla Terra c'è, è lontanissimo per quanto ci riguarda, ma bisogna solo trovare il modo di andarci. Quindi diamo un attimino tempo ai nostri giovani, ai nostri ragazzi, di ripartire da zero e riuscire a fare una cosa che noi riteniamo impossibile. È sempre successo così, una cosa impossibile finché qualcuno che arriva, che non lo sa che è impossibile, la fa. Senta, lei ha detto che per andare sullo spazio l'età tutto sommato non conta, però invece magari conta per altre cose. Ora lei avrà 60 anni quando sarà su di nuovo nella missione, per i supereroi diciamo l'età non dovrebbe contare, però nel suo caso questi 60 anni rispetto ai ragazzi di oggi come li sente? Si sente anziano rispetto ai ragazzi o no? Per esempio le faccio due domande. Allora, il distanziometro, no? Cosa le dà più fastidio dei giovani di oggi? I selfie, i pantaloni a vita bassa oppure la musica troppo alta? Mi piacciono queste cose. Ma a dire la verità, nessuna di queste cose mi dà fastidio. Basta, promosso. Mi dà più fastidio un attimino che si interessano di più al telefonino che fare i rapporti con gli altri. Secondo me stiamo distorcendo un attimino i rapporti sociali e traducendoli in messaggi SMS. Ma alla fine, voglio dire, fa parte dell'evoluzione, fa parte di cambiare e capire anche noi. Anch'io quando ero ragazzo guardavo mio padre, guardavo i miei e li vedevo vecchi. Ora spero che i miei figli non mi vedano così vecchio. Però veramente nello spazio. Sì. No, dico, lei ci avrà pensato al fatto che un paio di generazioni fa una persona, ma anche della mia età, 44 anni, figuriamoci a 60, se poteva anche solo immaginare, a parte di andare nello spazio che non si poteva immaginare, ma insomma... Ma diciamo che la scienza medica, sì, l'attenzione che abbiamo con il corpo, sicuramente hanno spostato quell'età a cui pensiamo uno è vecchio. Nell'assegnazione degli equipaggi l'età non entra neanche in gioco nella discussione di se uno è qualificato o no. Entra più l'esperienza, entra la capacità, entra le conoscenze, entrano le qualifiche, entra la capacità di lavorare di gruppo, entrano tutta una serie di cose che alla fine, se uno va a vedere, sono in parti molto più importanti. Quindi non dobbiamo farci bloccare dall'età, ma dobbiamo invece concentrarci sulle capacità e sulle qualifiche e andare avanti. Tra l'altro, insomma, una delle proposte che avevo fatto è i selfie. Samantha Cristoforetti, la sua collega, è diventata famosa a forza di farsi i selfie. Se li farà anche lei? Nello spazio? Ma vedremo. Ora tutte le volte che faccio una presentazione è divenuto di moda con i ragazzi che vengono e vogliono, sì, farsi un selfie. Va benissimo, lo trovo anche interessante. Alla fine me ne sono fatti un paio anch'io, a dire la verità. L'ultima domanda, ma adesso non è che si trova già su una navicella in partenza, perché la sentiamo un po' intubato? No, adesso sto guidando, sono su un'auto, ritorno da Roma, ritorno dalla mia famiglia, siamo un attimino in ferie estive, tra virgolette, e quindi ritorno da loro. È proprio una navicella spaziale, ma insomma bisogna guidarla con attenzione. Anzi, auguri e complimenti per questo traguardo importante. Grazie per essere stato con noi, Paolo Nespoli. Ciao, buona estate. Grazie, un saluto a tutti. 800 24 00 24, cari ascoltatori. Allora, ci abbiamo la pausa? No, ce l'abbiamo, sì, possiamo farla già adesso, poi dopo riprendiamo con i vostri interventi tra un attimo. 3, 2, 1, 0 and lift off. Si può fare l'attualità anche d'estate. Allora, eccoci qua, di nuovo buonasera cari ascoltatori, da Alessio Maurizi. Tra poco sentiamo anche i titoli dei telegiornali, cominciamo con gli ascoltatori. Però di nuovo Alessandro da Milano, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Prego. Niente, io volevo intervenire per quanto riguarda appunto la legalizzazione e l'uso in generale. Sì. Dato che comunque l'ascoltatore di prima ha fatto confusione magari in merito al all'utilizzo della cannabis in generale, chiaramente mentre si guida. Credo che sia come ogni cosa, come l'alcol o come altra cosa, quando sarà il momento nasceranno degli strumenti per combatterne, chiaramente. Ma credo che non ho capito, scusi, in che senso l'ascoltatore ha fatto confusione? Non ho capito il discorso sugli strumenti per combattere cosa? Per combattere, chiaramente, nel caso la guida è chiaramente in stato confusionale o comunque chiaramente sotto sostanze stupefacenti. Nessuno mai sottolinea che chiaramente si può o si deve utilizzare una qualsiasi sostanza e utilizzarla mettendo in pericolo la vita di qualcun altro, utilizzando la macchina, utilizzando comunque uno strumento o qualsiasi altra cosa. È alla base del buon senso, questo, credo. Oltre sì, del buon senso, però ci vogliono anche delle regole, è chiaro, perché se uno si basa sul buon senso, poi uno buon senso non ce l'ha, si beve due bicchieri di whisky e poi si butta in macchina. Ma infatti, però, per questo ci sono appunto. Ci devono essere i controlli, chiaramente. Sì. Essere chiaramente presenti sul territorio. Ma fondamentalmente, chiaramente dobbiamo vedere le opportunità che questa cosa deve dare, non soltanto le criticità. Perché è chiaro che se ci focalizziamo solo dove non dobbiamo andare, allora è sicuro che andremo a sbattere prima o poi. Ma secondo lei invece dove dobbiamo andare? Dovremmo proprio approfondire molto di più il discorso, perché l'utilizzo in generale, noi stiamo parlando soltanto di cannabis ad utilizzo o ricreativo. Sì. Ma lei fa consumo? Lei è uno di quelli che fa consumo? Sono un consumatore abituale. Di cosa? Di marijuana o cannabis? Di cannabis e marijuana sono diverse, no? Non so. Scusa, marijuana non è una cosa e la cannabis un'altra. Marijuana è una pianta, quindi è il fiore di una pianta. Alla base c'è quello. Poi il fumo è la Maria, insomma, va bene, lei fuma tutto. Esatto. Quindi, in generale, comunque, chiaramente. Chiaramente non lo faccio, cosa? Però non lo faccio chiaramente se devo guidare o se mi devo mettere all'opera in qualche lavoro. Quindi lei quando diceva il buon senso prima, lo diceva a ragion veduta, lei è un fumatore abituale, esatto. Però fuma in momenti in cui sa che non dovrà per esempio guidare la macchina. Per esempio alla sera quando si arriva a casa dal lavoro o resto, sì. Al posto di magari, o magari anche un bicchiere di vino, perché no? E poi in più sì. Mi collegavo anche al discorso dell'ascoltatore di prima, visto che faceva notare che i ragazzi al giorno d'oggi, in questo momento, io ho 27 anni, quindi alla base sono ancora considerato un ragazzo, e se consideriamo appunto che nella mia maggior parte dei casi ci troviamo anche ad affrontare discussioni con i miei amici o il resto, ma lo facciamo anche chiaramente fumando, ma chiaramente diventa un momento d'incontro, non diventa anche un momento mi immagino che discussioni, tutti belli fumati, no? È un po' come quando si beve, poi si fanno realtà, anche in realtà sono molto interessanti, perché a differenza dell'alcol nascono dei discorsi molto più interessanti, profondi, più analitici, è molto più introspettivo magari. Ma tipo, Alessandro, lei ha studiato, è laureato? Io sono laureato, sì. E durante il periodo degli studi, mentre studiava, fumava e riusciva a studiare meglio, magari, approfondiva meglio? Ma questo. Perché io, per l'esperienza che ho, qualche canna l'ho fumata anch'io e non era proprio il caso di studiare dopo aver fumato. Beh, oddio, se fumi mentre studi non è indicato, secondo me, era meglio. Per me in questo caso. Cioè, perché i pensieri vanno un po' in confusione, vanno un po' uno contro l'altro. Ma certo, direi che ogni cosa ha il suo tempo, nel senso. Ma quante canne fuma al giorno? Glielo posso chiedere? Quante canne fuma? Una, due, tre massimo. La sera? Sì, la sera. Durante il giorno non. Ma fuma anche le sigarette? Perché anche questo è importante. Sto cercando di smettere, sì. Perché il problema principale, infatti, utilizzando il tabacco, è proprio quello di fumare anche sigarette nel frattempo. Quindi la cosa principale da eliminare in realtà sarebbe il tabacco. Ma sui danni che può provocare il fumo lei si è informato? Cioè i danni, non la parte del tabacco, che è come fumare una sigaretta, quindi diciamo è quella cosa lì. Ma proprio è la stessa identica cosa in realtà, perché fumando una sigaretta e una canna, alla fine il concetto proprio di sostanze nocive sono tutte contenute nel tabacco e il resto. Chiaramente la combustione è una cosa che aggiunge. Beh, scusi, ma l'effetto che fa il fumo e la marijuana, effetto distensivo, come lo chiamava lei, è un effetto comunque psicotropo, come si dice. Quindi psicotropo. Qualcosa fa, non è che non fa niente. No, assolutamente, ma bisogna ancora giustamente capire se, faccio un esempio, se tutto con moderazione, se viene utilizzato con moderazione, non fa male, nel senso, è molto sottile la linea, secondo il mio parere. Ma a che età bisognerebbe cominciare, secondo lei, a fumare le canne? No. Allora, non credo che ci sia un'età nella quale si può dire tu devi, non so... No, però ho capito, a 14 anni uno può fumare una canna, secondo lei? Io ho fumato la mia prima canna, avevo 14 anni, per esempio. Quindi la mia, personalmente, però non... adesso abitualmente non saprei, però quindi bisognerebbe anche valutare diversi casi, diverse persone, diverse situazioni e tutto il resto. Comunque in ogni caso credo che ci sia molto altro in realtà, oltre quello che stiamo fermandoci a vedere, che in realtà soltanto il fumo, quindi l'uso ricreativo e il resto, tutto quello che ci sta attorno è un qualcosa di enorme. Cioè, è un mondo che si sta aprendo in maniera prepotente e molto molto molto velocemente. Se non ho capito cos'è tutto questo, cos'è questo? In America che producono cannabis o comunque lavorati hanno crescite a tre cifre. Cioè lei sta dicendo che c'è un'industria che si sta muovendo per produrre, ma in America si può produrre la cannabis? In alcuni stati è stato autorizzato l'utilizzo ricreativo, coltivazione e rivendita. Quindi in realtà adesso c'è un'industria enorme che si è aperta in America. E ma questo la preoccupa da fumatore, diciamo, adesso abituale in Italia? Lei è preoccupato per questo? Oppure la liberalizzazione, la legalizzazione, il fatto che ci sia un'industria trasparente, bla bla bla, è meglio? Perché lei adesso come se lo procura? È illegale, no? Cioè, quindi deve andare per canali illeciti. Ci vuole fiducia. Però chiaramente devi conoscere, devi sapere. Ma mi dica questo, lei è preoccupato, cioè non ho capito, questa cosa che la preoccupa della legalizzazione in America, del fatto che ci sono le industrie, è preoccupato dalle industrie? No, non sono preoccupato in realtà, il discorso è sempre questo, come ogni cosa, alla fine è la qualità che conta, è la qualità che vince, perché alla fine è sempre questo, ma anche nel mangiare, cioè, siamo tutti quanti abituati, è paradossale ma è vero, in Italia i nostri prodotti alimentari considerati il primo prezzo, in altri paesi sono prodotti comunque valorizzati molto di più rispetto al nostro primo prezzo. Quindi chiaramente è la qualità. E per il fumo succede qualità, la stessa cosa, secondo lei? L'Italia è un buon produttore? Di cannabis? Sì. Cioè, quello che si trova in Italia è roba buona? Personalmente io fumo, quindi non viene prodotto in Italia quello che abitualmente. Vabbè, se la procura quindi... da dove? Glielo posso chiedere? Da amici. Ma da quale paese? Marocco. Dal Marocco. Va bene, grazie, buona serata Alessandro. Un saluto, arrivederci. Ciao. Interessante intervento di Alessandro da Milano, fumatore abituale di fumo e cose che vengono dal Marocco. 800 24 00 24, TG La 7. Governo battuto al Senato su un articolo della riforma della RAI, passa un emendamento delle opposizioni che abolisce la delega all'esecutivo per il canone della TV pubblica, decisivi i 19 senatori della minoranza PD che non hanno seguito la linea del partito, esulta Forza Italia, la maggioranza non c'è più, twitta Brunetta, fisiologico andare sotto, c'erano molti assenti, minimizza il vice segretario del PD Guerini. Cambiano le leggi elettorali, ma la maledizione del Senato rimane la stessa. Da oltre un ventennio a Palazzo Madama i governi hanno traballato e in alcuni casi sono caduti. È stato il destino del primo esecutivo Berlusconi nel 94, ma anche di Prodi a capo dell'Unione nel 2006. Oggi Renzi fa i conti con un'aura sempre più ostile, compresi i dissidenti del PD. La maledizione finirà quando andrà in porto la riforma che cambierà volto e funzioni del Senato. Il Presidente della Repubblica richiama al rispetto dei ruoli nel ribadire la sua veste di arbitro e di garante della Costituzione. Mattarella lancia l'avvertimento, nessuno è un uomo solo al comando, in democrazia non è possibile. Al centro di tutte le riforme mi auguro che vadano in porto, ma non entro nel merito delle scelte che appartengono solo al Parlamento. la catena continua in tilt, l'aeroporto di Fiumicino, è bastato un blackout elettrico di 20 minuti per bloccare lo scalo, forti disagi, ritardi, altissima tensione tra i passeggeri e il personale aeroportuale, sono dovuti intervenire i carabinieri per placare l'animosità, l'incendio di ieri, secondo la forestale, è partito da un cumulo di rifiuti e si è poi propagato per il vento. Nei 13 anni che vanno dal 2000 al 2013 il sud d'Italia è cresciuto metà della Grecia. Una persona su tre è a rischio povertà e la natalità è tornata l'anno scorso al minimo storico da un secolo e mezzo. Lo certifica lo Svimez nell'anticipazione del rapporto sull'economia del Mezzogiorno, sottolineando il rischio di un sottosviluppo permanente causato da un PIL che da 7 anni è negativo e da un divario col nord che non è mai stato così ampio. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Leonardo da Lucca, buonasera e benvenuto Leonardo. Leonardo? No, stasera siamo un po' come a Fiumicino, non ce ne va una dritta. Antonio da Milano, buonasera. Salve lei, io volevo un attimo porre un quesito in merito al discorso precedentemente sull'utilizzo della cannabis. Sì. E proprio su questo argomento fare un quadro di quello che è attualmente la legislazione italiana in merito, sì, a un guidatore sotto effetto di cannabis. Difatti una persona che oggi consuma cannabis e si mette al volante, sì, viene punita in maniera estremamente severa, ma lo è ancora di più chi, o in pari modo, chi dopo aver fumato in precedenza si mette al volante. Le faccio un esempio che mi riguarda personalmente. Io 2 anni fa ho fumato a Capodanno e due giorni dopo sono stato investito da un automobilista che è scappato senza neanche fermarsi per soccorrermi. In seguito a questa cosa mi sono stati fatti vari test e nonostante io non fossi sotto effetto di sostanza stupefacente al volante, io sono caduto nel penale, sono risultato positivo sia al sangue che alle urine, perché il sangue tiene fino a 2 settimane il THC, che è la molecola, sì, di cui è costituita la cannabis, l'urina fino a 2 mesi e addirittura il capello fino a 6 mesi. E, proprio allora, questa è una cosa che andrebbe cambiata, sì. E quindi? Questa è una cosa che andrebbe cambiata, ma non è conciliabile. Tanto ci sono allo studio dei nuovi kit forniti alla polizia proprio in questi giorni, 2000 nuovi kit, è una cosa, notizia di cui volevamo anche parlare, proprio per i test sul posto, sul consumo di certe droghe, che non è sempre facile rilevare, come stava dicendo lei. Antonio, grazie. Sì, sì voleva concludere velocemente? Sì. Ok, questi kit però si basano sul metodo EMIT, che non ha validità legale, lo dico anche perché mi intendo abbastanza dell'argomento, e non ha una validità legale, utilizza un tracciante chimico, sì, che può reagire sia col THC sia con altre molecole. Se io sono allergico ai mirtilli, sì, il metodo EMIT... Vabbè, tutto è migliorabile, sì. Leonardo, staremo a vedere. Adesso intanto noi siamo partiti dalla proposta di legge, che ancora è proposta. Poi su come rilevare l'uso della droga al volante, questa è un'altra cosa ancora. Mi dicevate qualcosa dalla regia che non ho capito. Va bene, era Antonio questo. Buona serata. Allora, grazie Antonio, ciao. Eccoci qua, sono le 20:15, dovrebbe essere il traffico a quest'ora normalmente, però noi salutiamo intanto Marta Cagnola. Ciao Marta. Ciao. Ciao Alessio, grazie per questo, per questa introduzione, così entriamo già un po' in atmosfera molto hot. Certo, certo. Adesso poi me lo devi spiegare perché, perché noi volevamo da te tre segnalazioni su tre cose da fare nel weekend o non solo. E poi così tu pensi chissà cosa vi sto, esatto, per suggerire. Esatto, mi sto già preoccupando. Veniamo da un approfondimento sulla cannabis. Vedi te, traffico, torniamo tra un attimo. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Ora, l'Italia è il paese dei festival, delle sagre anche le più assurde, degli appuntamenti i più strani, ed è assolutamente ingiusto che queste iniziative meritevoli non abbiano la sufficiente pubblicità. Allora, noi vogliamo utilizzare i nostri potenti mezzi, Marta, per dare certo. qualche indicazione su nord, centro e sud, dove andare nel weekend. Ci sono delle cose bellissime da vedere. No, allora la premessa era un tormentone, tre indicazioni. La canzone si riferiva ovviamente al tormentone, non alle indicazioni per il weekend, perché quella cosa lì che suggerisce la canzone si fa tutti i giorni della settimana, non solo il weekend, caro Alessio. Speriamo. Ma il tormentone è perché questa canzone era di Serge Gainsbourg e Jane Birkin. Io ti segnalo l'ultimo tormentone in rete che ha lanciato la bravissima Esther Viola su Twitter. Sono anni terribili per essere una Birkin. Allora, intanto Jane Birkin ha deciso che non vuole più che la borsa di Hermès si chiami come lei, perché dopo tutti questi anni ha scoperto che è fatta coi coccodrilli e i coccodrilli soffrono. Pensa un po', forse chissà, pensava che fossero su coccodrilli suicidi. E poi sono anni terribili per essere una Birkin, perché ci sono tutte queste celebrities vestite malissimo e volgarissime, tutte con al braccio una Birkin, e la verità è che noi le invidiamo moltissimo. Perché quanto costa? Quanto costa una... Guarda, dai 5.000 in su, ma in su, ma in su tanto. Insomma, quindi... capisco già di più l'invidia. ecco, ci siamo capiti. Altro tormentone che poi ti vorrei segnalare, visto che tutti parlano del tormentone del principe George, del principino che in realtà è già snob appena nato, adesso il nuovo tormentone, tenetelo d'occhio, è della principessa Charlotte, con la pagina Facebook Charlotte Rosi Camale. Ah, quindi proprio dice... sulla scia diretta di, com'era, sì, Baby sì. George ti disprezza. Esatto, adesso c'è Charlotte Rosicamale, con Charlotte che guarda George vestito come il papà William col famoso vestitino bianco e rosso, e dice: ma se veste come papà 30 anni fa, no, dico, mo chi è il poraccio? Molto carina questa. Beh, questo non so se raggiungerà le vette di Baby George ti disprezza, che insomma è stato cliccatissimo, pazzesco, alcune erano veramente divertenti. Quello caldo delle ultime ore, quindi lo monitoriamo. Vuoi sapere cosa fare nel weekend? Sì, facciamo nord, centro e sud? Sì. Una. Allora, nord, c'è l'Aquileia Archeo Fest. Mi piaceva moltissimo questo termine, nel Friuli Venezia Giulia, Archeo Fest, perché si possono fare i festival anche con l'archeologia, andando a cercare un po' le bellezze archeologiche del presente e del passato, perché si va a vedere Duino, Trieste, Grado, ma si va anche a cercare di capire cosa c'era prima con tutte le scoperte archeologiche. Tra gli ospiti domani sera mi piace molto il fatto che ci sia Alberto Angela, che a me sta molto molto molto simpatico. Beh, certo, se avessi dovuto fare un archeofest sicuramente avrei chiamato un personaggio di quel livello. È curioso che l'archeologia possa muovere le masse e fare un festival, è strana sta cosa. Mi pare che poi potrebbe essere una buona idea, perché l'Italia è il paese dei festival, ma i festival sono anche una bella occasione per muoversi. Quindi segnaliamo al nord Aquileia, con Aquileia Archeo Fest. Al sud è più facile perché ci sono tante cose. Vai al centro? Centro Montefeltro Film School Festival. Perché io parlo di questo? Perché tanto stiamo già parlando di Venezia, di Locarno, dei festival di cinema, ma bisogna prepararsi adesso per scoprire il cinema del futuro. E questo è un festival che cerca di unire le scuole di cinema. Quindi fino al 2 agosto Montefeltro Film School Festival, un sacco di film selezionati, 38 su oltre 200 lavori pervenuti in tutti i mesi da ogni parte del mondo, quindi andando a scoprire le nuove leve delle... ragazzi freschissimi, perché come diceva Frank Capra, se le porte si sono aperte per me, prima o poi si apriranno anche per te, la regia è fatta per i giovani. Bello, Pennabilli, paese di Tonino Guerra, fino al 2 agosto. Fino al 2 agosto, bello. Sì, poi sono anche posti in cui si mangia particolarmente bene, quindi mi fa piacere segnalarli. È lontano al il mare sud. Da lì, vista mare, no? Non è lontanissimo. No, no, si può fare, come la trasmissione, no? Come il titolo della celebre trasmissione, certo. Si può fare. Sud! Sud, Tricarico, raduno delle maschere di Tricarico, perché io mi sono sempre chiesta nella vita, bello il carnevale, ma il carnevale andrebbe fatto d'estate, perché uno si maschera è in vero, maniera sono più d'accordo. Libera, no? Sì. Andrebbe fatto d'estate. Allora, il primo agosto in realtà non è proprio un carnevale, è la sfilata e il raduno delle maschere antropologiche di Tricarico. È veramente uno dei carnevali più interessanti d'Italia, perché fino a notte fonda girano queste maschere. Beh. Che arrivano un po' da tutti da tutte le regioni d'Italia. Quelle tipiche di Tricarico sono la mucca e il toro, ma sono davvero molto particolari, quindi vi consiglio di andare a cercare in rete questo raduno delle maschere di Tricarico. Intanto dov'è Tricarico? Dove siamo? Che mi manca il riferimento geografico su Tricarico. Siamo in Puglia, ecco. Adesso non vorrei dire una siamo tra Puglia e Lucania, ecco. Per essere più quando più succede precisa, tutto ciò? I lucani si arrabbiano, i pugliesi anche, hanno ragione. Primo agosto. Perfetto. Primo agosto. Fantastico. Allora, vorrei però segnalare che ci sono anche quelli arrabbiati con le sagre, perché tu hai detto le sagre rendono tutti felici. Siniscola, ultima segnalazione, provincia di Nuoro, sì? Sono arrabbiati i ristoratori e i proprietari di agriturismi, perché dicono che le sagre enogastronomiche vengono inventate di sana pianta, non si basano su prodotti tipici o su feste reali, sì. E rubano clienti. Lo so, io li capisco i ristoratori, però come si fa a fare questa polemica? Le sagre sono bellissime, uno sceglie, una sera vai al ristorante, una sera vai alla sagra, magari spendi anche un po' meno, stai all'aperto. Io credo che queste polemiche, mi dispiace per loro, ma sono perdenti, non lo so come la pensi tu. Comunque so. Hai fatto bene a dirlo. Magari una di queste puntate chiama Siniscola, così ti fai dire perché sono ci parliamo con loro, ci parliamo, cerchiamo d'accordo. Di calmarli un po'. Va bene. Marta, un grande abbraccio, ci risentiamo la settimana prossima, sempre verso mercoledì, giovedì, in modo da dare tempo anche a chi si vuole organizzare per andarci in questi posti. Ciao! Ciao. Allora, Tricarico in provincia di Matera, intanto abbiamo controllato, così diamo anche questa piccola informazione. Adesso che succede? Succede che abbiamo forse Leonardo da Lucca, l'ascoltatore evocato prima che non si sentiva. Leonardo? C'è? Leonardo, questa volta lo vengo a cercare a Lucca, dove stai? Niente, Biagio da Caserta? Neanche Biagio? Oh, non c'è nessun altro? Leonardo, Biagio? Io non c'ho nessun altro, cosa faccio? Leggiamo un po' di notizie. Vabbè, no, facciamoci venire voglia di andare. Allora, riepiloghiamo. Tricarico, la festa del carnevale, il primo agosto. Cos'è il primo agosto? È domenica, ragazzi? Aiutatemi, sì. Beh, io quasi quasi ci vado. Allora, Leonardo. No, Gianni da Ferrara. Gianni. Sì. Pronto, mi sente? Sì. La sentiamo, meno male. Bene. No, le volevo solo dire una cosa, io giro per lavoro dalla mattina alla sera, frequento fabbriche, bar, ristoranti, autostrade. Io ho visto, indipendentemente che poi sia giusto o no drogarsi, non mi interessa, però ci sono, io vedo la categoria di chi fuma, chi fa le canne, di chi si droga anche, e l'altra categoria di chi non lo fa. Ma sono ragazzi completamente due pianeti diversi, sì, ragazzi che gli uomini. Mi dica, come li trova? No, quelli... io volevo solo dire questo senza offendere. Ma specifichi, in che senso? No, sono due pianeti diversi? Sì, come? Quelli che fumano mi sembrano delle schifezze, gli altri no. Beh, è esagerato, quelli che fumano, che fumano una canna sono tutti delle schifezze. No, io parlo di droghe, non la canna in generale. Però ha detto fumano. Vabbè, comunque ascolti, io vedo questo, come guidano per la strada, come si comportano negli ambienti di lavoro. Ma lei darebbe un carrello elevatore, un muletto da 50 quintali che gira in mezzo a dei reparti e uno che si fa le canne? In mezzo a mezzo metro dalle gambe degli operai, lo darebbe? Farebbe una gru che sposta i container al porto di Genova? No, guarda, detta così la risposta. No, ma ha ragione. Un pullman con 80 bambini, va bene? Tutto. Ma lei lo darebbe a uno che poi va a tavola a pranzo e beve mezzo litro di vino? No, perché penso che eppure succede, eppure succede. Ma io e nessuno anche... si scandalizza. Io mi scandalizzo invece perché sì. Si parlavate di quello, ho parlato di quello. Se domani parla di alcol, la chiamo per parlare dell'alcol. Siccome lei mi ha fatto una domanda, io l'ho risposta. Allora li metto sullo stesso piano. No, ecco. Sa perché? Perché quello che dico io porta alla risposta alla sua domanda. Io non mi scandalizzo nella misura in cui sia chi beve sia chi fuma sa benissimo che non deve farlo un'ora prima di mettersi a guidare il muletto di cui parlava lei o di mettersi alla guida. Questo è quello che succede nella vita normalmente. Bene, per fortuna. Io penso che invece la gente usa l'intelligenza. Io penso che non sia così perché l'incontro per la strada tutta. Mi sembra una succede purtroppo diverse, quello che lei dice, però là lì dovremmo proibire tutto. Dovremmo proibire tutto. Vabbè, mettiamocelo in testa. Ma io sono d'accordo anche per proibire l'alcol, è al 100%. E anche se lo proibiamo, poi ci sarebbe il commercio illegale, ci sarebbe casini anche peggiori, lo sappiamo benissimo. Perfetto, non esiste. Però io vedo, guardi, io... il proibizionismo purtroppo lo dico tutto, non ha funzionato. Io a lume di naso vedo. Sì. Vedo certi ragazzi che lo fanno, sembrano diversi, io non voglio, ti ho detto schifezza, ma mi ritiro la parola perché è troppo esagerato. Mi sembra, diciamo, molto diversi, No, no, ma qua. Che siano diversi sicuramente. Va bene, grazie comunque Gianni, grazie per il suo intervento, che è l'ultimo praticamente, no, quasi. Con chi chiudiamo? Lino da Roma. Lino. Salve, buonasera. Buonasera. Senta, niente, ho sentito, sono un medico, un professore universitario e stavo ascoltando ovviamente l'intervento di tutti gli altri, le altre persone sì. E credo che siano state dette comunque delle imprecisioni, per quanto noi elastici si possa essere mentalmente, sì. Per quanto alternativi noi si voglia essere nella nostra società. Io credo che sia l'uso dell'alcol, sia l'uso delle droghe leggere, anche le leggere, sì. Non sia molto indicato quando ovviamente si ha a che fare con dei movimenti, diciamo, fini del corpo o diciamo fondamentalmente, intanto rispondendo al ragazzo di 27 anni. Guardi, direi che è proprio l'opposto, cioè io l'ascoltatore che diceva la sera a casa mia mi faccio una canna prima di andare a letto, è proprio quello, cioè nel momento in cui uno si sta rilassando beve un bicchiere di vino o due e va a dormire, e quello si fa una canna. Quello è un uso che non mi pare che crei problemi, può creare problemi di salute come altre cose, come fumare le sigarette o come andare in giro per strada a respirare lo smog, voglio dire, però quello è il riferimento. Il resto, pronto? Farsi una canna sì. Prima di andare a letto a casa propria non crea problemi agli altri. Bravo, esatto. Ma dato che noi siamo, diciamo, degli animali sociali, quando noi dobbiamo interagire con altre sì. persone, dobbiamo stare particolarmente attenti a non danneggiare non solo noi stessi, ma a non danneggiare gli altri. Adesso io vorrei vedere... Lei è contrario alla proposta di legge bipartisan sulla legalizzazione? Alla luce è bella tosta come risposta. Guardi, però me la deve insegno... dare in 5 secondi perché devo chiudere purtroppo. Benissimo, sì, io no? Non credo che sia così necessario, va bene. Soprattutto che sia importante in un paese come l'Italia dove è molto facile trasgredire. Grazie, buona serata, grazie a tutti. Riccardo Buccero, Cristian Goldoni, Leonardo Seligato, Andrea Piana, Paolo Colleoni in regia questa sera. Ci sentiamo domani, ultima puntata della settimana, si può fare 18:20:30. Ciao a tutti, buona serata da Alessio Maurizio. Ciao.